Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Che credevo morti ormai, e chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei amici. Quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sempre. Silenzio. Ed eccoci, siamo così giunti alla seconda tappa del nostro viaggio attraverso il mezzo di comunicazione più diffuso al mondo, signori. Il primo, il più potente, di sicuro il più accattivante e coinvolgente, il più usato e speriamo il vostro preferito, di sicuro il mio, la voce. Il viaggio è appena cominciato. Signore e signori, benvenuti alla seconda puntata di Voice Anatomy. Quella che avete appena ascoltato era ovviamente la voce, ma del silenzio, che tante volte è meglio e più intensa di quella che chiacchiera davvero. Una canzone scritta anche dal grande Paolo Limiti, che spero avremo presto qui in studio, interpretata da una delle voci più belle della canzone italiana e forse mondiale, e stiamo parlando di Mina. Bene, anche oggi ripercorreremo l'evoluzione dell'utilizzo della storia della voce con un sociologo e musicologo. Avremo come ospiti due dei più grandi attori, doppiatori italiani, Maria Pia Di Meo, Mary Streep, Barbara Streisand, Jane Fonda, e mi fermo perché altrimenti finirebbe già il primo blocco, Dario Penne, il grande Anthony Hopkins, Michael Caine e quant'altro, due freestyler, due rapper straordinari che ci faranno proprio divertire, e tanto altro, perché questa è un'altra domenica, la nostra. È un altro modo di trascorrere insieme la domenica pomeriggio, un'altra domenica. Si parla di storia, storia della voce, si parla di calcio, ma la storia del calcio dopo le partite, si parla di storie, per cui storia delle storie con l'amico Ruggeri e tanti altri. Questo vuole essere Radio 24, un altro modo di passare insieme la domenica. Adesso vi comunico tutti i numeri di telefono che permetteranno a voi di interagire con noi, di rendere osmotica questa trasmissione. Allora, abbiamo per la diretta 800 24 00 24, per i vostri sms 349 238 6666, ma poi abbiamo la nostra segreteria telefonica, che è già tanto successo raccolto con le vostre interpretazioni, la nostra voice box, il numero verde per partecipare, poi capirete ancora strada facendo, la nostra trasmissione, ma soprattutto fare un vostro provino anche da dilettanti, soprattutto dilettanti, per cercare di entrare in un mondo fantasmagorico che è quello della voce, che è 828 12 12, e seguite la voce guida, che è la mia, che vi spiegherà qualcosa di più. E poi anche la mail, non ci facciamo mancare niente, Voice Anatomy con la Y greca, @radio24.it. raccontateci la vostra vita, diventerà un film raccontata dalle voci più interessanti del panorama di attori, doppiatori italiani. Il Twitter è @voiceanatomy. Abbiamo finito, madonna, i social, quanti ce ne sono, io sono figlio della vecchia generazione. Andiamo subito a presentare il primo ospite, piccola biopic, piccola biografia. Maria Pia Di Meo è una grande attrice, una grandissima doppiatrice e direttrice di doppiaggio italiana. Non dico l'età, perché insomma... Per carità! Eccola! Però già 6 anni le prime esperienze in sala di doppiaggio, a 11 debutta addirittura nel Peer Gynt con Vittorio Gasma. Qualcuno ha detto Peer Gynt perché pensava fosse inglese, ma è Peer Gynt con Vittorio Gasma. L'anno seguente lavora in radio, a 18 anni è già nella compagnia del grande Ferzetti Pagnani, nella adorabile Giulia, col Teatro Stabile dell'Aquila. Tantissime cose, Strindberg con Orazio Costa, eccetera eccetera. Grande doppiatrice, grande attrice. Tra i personaggi li scopriremo insieme: Mary Streep, Barbara Streisand, Audrey Hepburn, Julie Andrews, John Woodward, Julie Christie. Forse ha doppiato anche me e non me ne sono accorto. Ma adesso, prima di presentarla, ma l'avete già sentita in voce sorridente e paciosa al mio fianco, ascoltiamo alcuni contributi della voce della nostra meravigliosa Maria Pia Di Meo. Ho imparato una cosa che tu ancora non sai. Esistono affetti che è molto bello avere, ma che hanno un loro prezzo. E io voglio essere uno di quelli. Non te lo permetterò, Dennis. Lo sai che cosa sei, Paul? Sei uno che guarda. Uno che guarda. A questo mondo c'è chi guarda e c'è chi fa. E chi guarda sta seduto a guardare gli altri che fanno. Beh, stasera tu hai guardato e io ho fatto. Ho sofferto più io a guardare quello che facevi tu che tu a fare quello che guardavo io. Tu non riesci a rilasciarti neanche per una serata. Io non lo so, Paul, ma a volte ti comporti così da... Da cosa? Da quacquero? È così? Non so che vuol dire. Ipocrita e retrograda. Allora è questo che tu ti aspettavi. Io non ho detto quacquero. Beh, a quanto pare non potrò avere un processo se non recito la parte giusta per chi adesso? Aaron Levinsky. No. Difensore d'ufficio. No, non si tratta di questo. No. E che devo fare per avere un processo? Prima di tutto non devo... Che devo fare per essere processata? Lo posso sapere o no? Era Barbara Streisand arrabbiata, non Maria Pia. Maria Pia è tranquilla. Abbiamo fatto un piccolo percorso. Siamo passati da Mary Streep della mia Africa dell'85 a Jane Fonda a piedi nudi nel parco. Sì, bellissima sì, commedia sì. Diventata film di Neil Simon. E poi questo film, forse un po' dimenticato, ma straordinario, Nuts, pazza, con sempre una Barbara Barbara Streisand straordinaria. Bravissima, film difficilissimo da doppiare, ma io mi sono innamorata di questo personaggio. No, bellissimo, infatti è anche un bel testo teatrale. È un bellissimo testo teatrale, sì. Mi sarebbe molto piaciuto farlo in teatro, ma... Signori, sono con Meryl Streep. Mi sento tanto Robert Redford nella mia Africa. Che sì, bello. Sei con Meryl Streep un po' svociata, però. No, sì, perché io esco da un'influenza e quindi la mia voce, cari ascoltatori, non è proprio il massimo stavolta, mi dispiace. Posso dirti che comunque anche senza Bente la tua voce è suadente e meravigliosa. Ecco, questo, siccome la nostra trasmissione è anche un tutorial nei confronti delle persone che ci stanno ascoltando, ecco, un attore perde la voce. Che succede? Succede che non doppia. No. A meno che non ti fai qualche inalazione. No, non si fa. Io personalmente non ho mai fatto inalazione, non ho quasi mai perso la voce, anche facendo urla, cose. Però la voce si può impostare. Noi abbiamo uno strumento che è quello della voce, ne parliamo certo, lungamente. Certo. Tu hai fatto Giulia in Giulia. Sì. Dove la voce era completamente... com'era? Io parlavo tutta così svolazzante. Era una specie di deficiente. Lo vedi? Sì. La voce è uscita. Perché? Sì. Perché si imposta la voce. La voce a questo punto ha usato il diaframma, ha spinto, è andata in testa. Sì. Perché è uno strumento. Il nostro corpo è quello che... Come la chitarra, cioè, ci sono le corde, ma il corpo è quello che poi dà il suono alla voce. Sì. Tu sei riuscita a mettergli la voce in testa ed è uscita. E pensa che sono stata anche criticata per questo. Sì, perché qualche... critico appunto ha trovato che questa voce della Streep in questo caso era svolazzante, era non la solita Streep. Ma lei l'ha fatto così? Non solo, hanno preso dei pezzi in originale della Streep, certo, dove lei magari sorrideva, diceva qualche battuta in francese, e l'hanno unita alla mia, per quanto era simile, però non è stato capito. Ma guarda, è sempre vero, no? Cioè, vale tutto il contrario di tutto, soprattutto il doppiaggio ha sempre avuto chi lo ha amato fortemente e qualcuno che invece l'ha bistrattato per motivi che ci sfuggono, perché il doppiaggio non è altro che una traduzione, basta. Non dovrebbe essere una traduzione, dovrebbe essere un'interpretazione. Certo. Però sono più le critiche al doppiaggio che non, diciamo, le critiche favorevoli. Sta cambiando un po', però adesso sta cambiando. Per esempio, nell'ultimo film che ho fatto della Streep, che è I segreti di Oz County, finalmente la critica si è ricordata del doppiaggio, dicendone finalmente bene. Oh. Però Però me lo scrivo io ormai. Me lo metto in un quadro. Ma quello che diciamo noi sempre spesso è come un libro. Se tu sai lo spagnolo, García Lorca, lo leggi in spagnolo. Certo, ma se non lo sai, certo, leggi la traduzione e l'adattamento che c'è stato di quel libro. O se sai l'inglese, Shakespeare, leggilo in inglese. Se non lo sai, scegli un buon adattamento dello Shakespeare in italiano. E così in tutte le lingue. Così è il doppiaggio. Ma tutti saremmo d'accordo a vedere i film in originale. Certo. Solo che dovremmo conoscere le lingue. Tutte. E in Italia non tanti conoscono le lingue. Noi ci sbracciamo, non siamo la voce. Noi la trasmissione in Italia dovrebbe essere Arm Anatomy, cioè braccia, perché noi parliamo con le braccia, ma parleremo anche di questo dopo col sociologo. Tu hai cominciato a 5 anni col doppiaggio, sì, o sbaglio? Guarda, non mi fa ricordare, cioè, 15, il passato. Sono 20 anni fa poi. Sono 100 anni che io faccio il doppiaggio. Infatti molti ogni tanto mi dicono, cioè io sento che dico, ma c'era 80 anni, c'era 90 anni questa. Ma non c'è più da anni ormai. Sarà morta. Perché la sentiamo da sempre. Effettivamente io ho cominciato a fare, essendo figlia d'arte, a fare le prime cose in doppiaggio che avevo 5 anni, certo, e non sapevo leggere, per cui mi mettevano sul trampolino, imparavo la battuta a memoria e la dicevo. Ahimè, ciò è triste. Chi ti ha diretto quando avevi 5 anni? E chi anni? Se lo ricorda più. Uno dei, dei primi film che ho fatto da ragazzina era un film di Gora, che adesso mi sfugge il titolo perché di anni ne sono passati tanti. Io avevo 13 anni e doppiavo Marina Vladì. Sì, ma non mi ricordo più come si chiama. Vabbè, era il film con Claudio Gora. Rimbambita sono. Ma che rimbambita, capire? Se parli o meno, non mi ricordo. Dopo tanti anni. Amore mio, sono stato in sala ieri e non mi ricordo che ho doppiato. Cioè, lascia stare, dai. No, succede anche questo. E poi, ovviamente, la doppiatrice è un'attrice a tutto tondo, ma per forza. Sì, perché poi non io può non esserlo. Ho debuttato a 11 anni con Gasman, poi appunto ho fatto Stabile dell'Aquila per 3-4 anni, dopo con Orazio Costa ho fatto il Don Giovanni di Molière. Insomma, la Colapagnani, ho fatto un po' di teatro. Certo, continua anche Coppino Insegno per radio, insomma, cala un po'. Invece non è vero, perché io amo moltissimo Rai 24, me la sento sempre, per cui sono felicissima di essere qui, anche senza voce. No, ce l'hai qui a Radio 24, sicuramente. No, non è la mia, è una voce... Però non è un turno questo, la tua voce è suadente, vicino al microfono. Ma non è più suadente adesso. Ma come no? Sentiti, io credo che a casa, se chiudessero gli occhi... Stanno svenendo tutti. Sì, quelli che stanno passando con noi un'altra domenica, quella staccata un po' dal calcio, ma piena di sogni, piena di curiosità da questo punto di vista. E poi il doppiaggio, come l'attore, è quello che provoca più entusiasmo in una sala quando stai mangiando qualcuno. Se c'è un dottore o un doppiatore, si parla di medicine e si parla di voce. Sì, è perché è affascinante, perché il mondo evocativo della voce è straordinario. Tu adesso per radio, io posso dire, c'è Meryl Streep, ci è venuta a trovare. La gente penserebbe così, perché quando erano i grandi di una volta, mio nonno, mia nonna diceva, che bello, hai visto questa marca di formaggi famosissima, la mangia anche Gary Grant, e invece era Gualtiero De Angeli che, certo, si diceva cose buone dal mondo, no? Certo. Era convinta, c'era una fantasia forse maggiore. Sì. Quando ti mettevi davanti al televisore negli anni 60, anche lì mia nonna si truccava, poi ho capito perché. Perché quando la signorina buonasera salutava, diceva signori e signori buonasera, mia nonna la risalutava perché era convinta che la guardasse. C'era un po' più di fantasia da questo punto di vista. E la voce, è la tua voce, per tornare a quella, è bellissima così, è anche così evocativa. Beh, così insomma, io mi sento non nel migliore delle mie possibilità e soprattutto mi dispiace, perché volevo leggere delle cose. Ma una cosa la leggerai piccolina. Sì, piccola, proprio un accenno. Senti, tocchiamo al volo gli anni 60, poi continuiamo questo percorso della tua vita e della voce. Ti hanno visto doppiare le grandi icone del passato, gli anni 60. Eh sì. C'era la grande Jane Fonda, con chi hai cominciato? Audrey Hepburn, che c'era? Audrey Hepburn, Romy Schneider, con cui ho fatto i film di Visconti. Tanti. Shirley MacLaine, tanti. Julie Andrews, ma sai, io me li scordo anche, perché sono tanti. Te li ricordiamo noi, se li ricorda la gente. Signori, Radio 24 e Voice Anatomy è appena cominciata. Ah, con voi non si può parlare. Rigirate sempre la frittata e io ho sempre torto. Ma non siate troppo sicuro di avermi soggiogata, calpestata e messa a tacere. Io sposerò Freddy appena sarò in condizione di mantenerlo. Vogliamo cominciare? È un gioco però, vero Mary Poppins? Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene! Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta Voice Anatomy. Johnson. Ciao Madge. Sì. No, mi stavo preparando qualcosa da mangiare. Cos'hai? No, cosa? Ah sì, ne ho sentito parlare. Deve essere una specie di fotografo, se non sbaglio. Non capisco perché sia tanto difficile confermare un appuntamento. Lo so, mi dispiace Miranda, veramente l'ho confermato ieri sera. I dettagli sulla tua incompetenza non mi interessano. Dì a Simone che non intendo approvare la scelta della ragazza per il servizio brasiliano. Io l'ho chiesta pulita, atletica, sorridente. Me l'hanno mandata sciatta, moscia con la pancia. Sei tanto bella. Senti, non usare questo dialogo da prima donna con me, sono una comica. Ah, sulla scena? Ma io ci vivo sulla scena. E allora perdi troppe cose. Va bene, ci dobbiamo rifare, quindi incominciamo. Io sono in tournée per il momento, stiamo una settimana qui, poi a Chicago e poi cominciamo subito le prove di un altro lavoro. Tu cosa fai? Cosa faccio? Cerco di condurre e portare a casa Voice Anatomy, questa bella avventura nel mondo della voce. Al mio fianco sempre la straordinaria Maria Pia Di Meo, che lei continua a dire di non avere la voce, ma la voce a parte l'abbiamo sentita. Il doppiaggio che poi mi diverte a guardare negli occhi Maria Pia, perché non si ricorda, dice: questo quando l'ho fatto? Questo chi ero? Allora te lo ricordo io, anche se poi l'hai indovinato. No, all'inizio è Audrey Hepburn, My Fair Lady, poi Julie Andrews di Mary Poppins. Mary Poppins, tu sei stata la nostra tata, lo so. Di tutti noi. Infatti lo sai che adesso le mie nipotine mi chiedono sempre di fargli Mary Poppins. Sì, io le addormento facendo: via, venite qua, via, ragazzine, forza. E loro: dai, ancora nonna, ancora. E non dormono così, però. Si addormentano, sì. No, perché poi faccio la voce moscia. Poi mi addormento prima io, esatto, di loro. Però che bella, è una tata davvero. Maria Pia, io ho un bambino di 9 mesi. Se tu mi fai la cortesia, potrei venire. Sotturni, potrei notturni, venire. Sì. Però sono pagati di più, caro. Ormai, guarda, conviene venire a fare la babysitter a casa mia, a casa tua, subito, a casa o a casa di voi. Telefonate. A proposito, per le dirette, se volete, 824 0024. Avete la possibilità di duettare con la grande Maria Pia Di Meo. Con la scusa, leggo anche alcuni messaggi fra i tanti che arrivano. Siete due usignoli. Grazie, insomma, due usignoli. Uno ce n'è sicuramente, l'altro è un tordo, un po' tardo. Un altro invece, giustamente anche cattivo, dice: ma viva l'originale dei film, ci sono i sottotitoli e basta con la pigrizia, il doppiaggio ammazza i film. Vabbè, è giusto rispettare anche questa. Mi sembra un po' troppo estrema. Adesso ne devo dire una su questo. Troppo comunque estrema, anche perché il sottotitolo, leggi sotto, vedi sopra, il film iraniano, il film francese, il film turco, il film eccetera, è un po' complicato seguirli da quel punto di vista. Ti distoglie dall'azione. Esatto. Cioè, tutti quanti siamo d'accordo che i film, e soprattutto certi film, andrebbero visti in originale. Però siamo in Italia, chi è che conosce le lingue? Pochi. Esatto. Allora c'è la scocciatura del sottotitolo. Poi sono i DVD e Blu-ray, insomma, se uno vuole scegliere, si guarda il film con l'originale. Ti dico una cosa: c'è stato un regista, adesso non faccio il nome perché non è carino, che ne ha dette di tutti i colori contro noi doppiatori, ma anche in un modo abbastanza volgare. Ora, nel suo film che deve doppiare e che ha doppiato, ha voluto me per doppiare Jim Fonda. Ah. E io non ci volevo andare, perché naturalmente dopo quello che aveva detto è successo. Tanto hanno insistito che io, per motivi che non sto qui adesso a dire perché non sarebbe carino, sono andata. Avremo modo di parlare con questa persona, perché ci ho litigato anch'io fortemente, ma non voglio riaprire, perché avremo modo di incontrarli, io credo, molto a breve, e ci sarà un confronto anche molto interessante. Perché non ha messo i sottotitoli, per esempio, lui? succederà, perché ci ho avuto anch'io uno scontro non indifferente da quel punto di vista, perché è giusto, insomma, analizzare, va bene il punto di vista, tu sai l'inglese, sì, bene, vai, ma i sottotitoli veramente distraggono troppo, è come in un libro, tu te lo leggi in francese col sottotitolo, perdi la tempestività dell'emozione. narrazione, tantissime cose. E poi comunque esiste un buon doppiaggio o un cattivo, un pessimo doppiaggio, come le traduzioni, buono o cattivo, insomma, non è quello. Poi c'è un altro, grazie a te Pino, scusa se ti do del tu, ma ci mancherebbe altro, aver creato finalmente un programma dedicato a questo fantastico mestiere. Saluto te, la fantastica Maria Pia Di Meo, con una citazione di una delle più grandi direttrici di doppiaggio, ossia Fede Arnaud, che è stata veramente una grande. Il doppiaggio è fare cultura. Bene, continuate così, un saluto Alessandro, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo una telefonata e abbiamo la possibilità di sentire dalla viva voce di qualcuno che cosa vuole raccontarci. Da Ragusa, direttamente dalla bellissima Sicilia, c'è Giovanni, se non sbaglio. Sì, buona domenica Pino, buona domenica Maria Pia Di Meo, che la conosco da tanto. Buona domenica, mi conosce come personalmente? No, come attrice e come doppiatrice. Ah bene, per un attimo Maria Pia, capite chi è? Che il padre era il grande Giotto Tempestini. Mio padre, certo, io sono figlia di attori, mia mamma. La mamma anche, vero? Ah, sì, Anna Di Meo faceva l'attrice, mio padre anche, mio padre addirittura faceva i carri di Tespi, quindi sono proprio figlia d'arte, diciamo così. Chiamiamola arte. Arte, no, arte. Tu, Giovanni, sei vicino al castello di Donna Fugata, se non sbaglio, da quelle parti, vero? Dove si è girato la scena del ballo del Gattopardo. Niente meno. Che bella ma cosa. Quel film non è stato doppiato dalla CDC, se no, non sbaglio. No. Infatti, Burt Lancaster era doppiato, se non sbaglio, da Corrado Gaipa, giusto? Sì, sì. Allora era CVD all'epoca. Sì, sì. Vuoi fare una domanda, Giovanni, a Maria Pia? Volevo sapere da Maria Pia Di Meo. Molti anni fa la RAI trasmise due cicli di Buona la prima. Lei non vi ha mai partecipato perché? Ah, si ricorda? Non lo domandi, 72 e 73. Non lo domandi a me. Io non ho partecipato a tantissime trasmissioni. Non lo so perché. E ci saranno dei motivi. Chissà, forse pensano che io ormai sono, che ne so, quasi morente. Ci saranno dei motivi che io non riesco a capire, perché non ho preso parte a tantissime trasmissioni sul doppiaggio. E quindi non glielo so spiegare. Però di premi ne ha ritirati tanti e continuerà a farlo, sì, quello è importante. Quello sì. Giovanni, grazie della tua bellissima, del tuo bellissimo intervento, con grande voce, bella voce anche Giovanni. Devo dire. Dovrebbe fare doppiaggio. È vero, ma noi abbiamo quella voice box dove le persone possono tentare di avventurarsi nel mondo del doppiaggio. Infatti dopo ci avremo un ospite, fra quelli che abbiamo scelto delle persone che poi la loro voce farà il giro dei direttori e perché no, potrebbe cominciare. Certo, va bene? Certo. Giovanni, grazie. Prego. Un abbraccio. Grazie a Maria Pia Di Meo, sempre la più grande. Ciao, sono d'accordo con te, ma a proposito, c'è qualcun altro che ha detto la più grande, a parte me, Giovanni. L'ha detto Barbara Streisand. Che ti ha detto? Ti ha fatto i complimenti? Beh, per come eravamo, avrebbe ricevuto il suo lavoro di doppiaggio, dei contributi che hanno arricchito proprio tantissimo. Ti ha detto... Mi ha reso più brava come attrice il tuo doppiaggio. Sì, è vero. È stata, diciamo, una delle poche. E mi regalò, mi ricordo, anche un bellissimo scialle in cashmere. Me lo mandò attraverso la sua assistente. Ma è stata una delle poche, devo dire. Perché non ho ricevuto tanti ringraziamenti. Meryl Streep, che ho conosciuto, perché lei ha voluto, quando è venuta in Italia a prendere il premio per la carriera, ha voluto conoscermi, ha voluto conoscere la sua voce. Ed è stata veramente straordinaria, cioè non come le nostre attrici che si danno le aree, cioè una grazia, una simpatia. Va bene così, guarda, il doppiaggio ha reso migliori, come disse anche Woody Allen di Orazio Lunelli, mi ha reso un attore migliori. Ma noi ce l'ascoltiamo un attimo, un pezzo di Come eravamo, con Barbara Streisand e la tua bella voce. Noi torniamo fra poco, vi ricordo che Voice Anatomy è appena cominciata. Quella ragazza è molto attraente, porta anche lei quando viene a trovarmi. Non credo che verrò. Non credo. Lo so. Voice Anatomy. Vorrei solo dire che io prendo molto seriamente la fiducia riposta in me oggi dal popolo della Gran Bretagna e lavorerò duramente ogni giorno per essere all'altezza di questa responsabilità. E ora vorrei condividere con voi una preghiera di San Francesco d'Assisi. che ci leggerà qui in diretta Maria Pia Di Meo, visto che abbiamo la voce originale, no scherzo. Ma chi no. Di Mary Strip, questa era Iron Lady, Iron film Lady. Il biopic su sì. Margaret Thatcher. Lì c'è stato un percorso della voce molto interessante. Lei ha cominciato giovane e è finita a 80 anni. E com'è la voce? Come si... Io mi sono divertita da morire. Che consiglio Anzi, diamo? Anzi, ti dirò però una cosa. Dimmi. Che da quando ho fatto poi questa ottantenne, si sono dati la voce. Allora mi chiamano solo per fare le ottantenni. Ma hanno visto solo l'ultima parte del film, non sì, ho capito. Prima sì. C'erano 50. No, però... Senti. Hai capito? Hanno pensato che quando c'è una che ha 80 anni, 85, una vecchiaccia, cioè... Ma Di Meo certo. È perché l'ha invecchiata bene. Come si fa a invecchiare la voce, Maria Pia? Trovano i sistemi, cioè magari si stringe la qui la gola, si fa qualche insomma cioè sì. Si fa, io parlo così da ti avventuro all'interno del mondo della voce, faccio da veicolo per i nostri radioascoltatori ovviamente mi piace fare pure da tutorial questa trasmissione, che possa far capire alle persone i trucchi del mestiere, fra virgolette, i trucchi, bisogna essere dei grandi professionisti. Non ci sono i trucchi. C'è intanto la capacità e la possibilità di seguire quello che ha fatto questa, per me, la più grande attrice europea che abbiamo, cioè la Strip, e quindi seguirla nei suoi momenti proprio in cui la voce si perde, e quindi magari essere roca, oppure lei più leggera, oppure più rotta, insomma bisogna seguire e farla propria, perché poi diciamo la bravura di un doppiatore dovrebbe, poi non mi piace questa parola, attore, perché poi tu lo faresti anche in scena, appunto, di un attore, quella di essere, come diceva Pirandello, uno e 100.000, cioè tu puoi doppiare i Ponti di Madison County, Prime, dove lei fa una psicanalista comica buffa, il Diavolo Veste Prada, e poi fai per esempio l'ultimo che ho doppiato della Strip, che è I Segreti di Osage County, dove lei fa un personaggio drammatico, terribile, una madre incocainata col tumore sulla bocca, cattiva, dura, che mena tutti, la figlia, insomma un personaggio da far bello. Tremare veramente i polsi a tutti, ecco. E quindi la bravura di chi fa questo mestiere è solo questo, cioè riuscire ad essere sempre diversa. Quelli che lo fanno così, tipo speaker, sono bravissimi. Sempre la stessa bella sono voce. Sono bravissimi dal punto di vista tecnico, ma non è questo. Cioè, questo mestiere può avere un senso e un valore quando si cambia. Quando si fa un personaggio in un modo, uno in un altro e uno in un altro. Come fanno loro? Come fanno loro? Solo loro hanno mesi, tempi, eccetera. Noi dobbiamo fare tutto velocemente. Infatti... come nella vita quotidiana, insomma. Poi arrivano altri messaggi. Carovino, la Rai non fa più niente di buono. Io sono sempre su Radio 24. Vabbè. Benissimo, grazie a Eralda. Buon pomeriggio, Pino. Straordinaria Maria Pia Di Meo. Finalmente un bel programma che parla e affronta la nobile arte della recitazione e del doppiaggio. Un infinito grazie. Grazie anche a te. Signora Pia, apprezzo la sua modestia e umiltà, ma lei ha una bellissima e sensuale voce ancora adesso, complimenti. Grazie. Apri una linea telefonica. Grazie, privata. Sì. Senti, mi leggi una piccola cosa? Lo so che è vero che la voce ce l'hai più oggi un po' malandata, e non no, è vero. No, è molto malandata, e soprattutto mi dispiace di leggere una poetessa che io adoro, Alda Merini, e non ho potuto scegliere cose più lunghe. Intanto torni. Vabbè, sì, quando torno avrò una voce più, come dire, più duttile. Ma dai, e potrò leggere. Ti mettiamo qualcosa. Pure sotto un sottofondo meraviglioso. Dai, no, pronti. Adesso sono proprio una disgraziata. Allora. Eccola. A volte io leggo i miei versi e mi meraviglio di averli scritti. I versi sono polvere chiusa di un mio tormento d'amore, ma fuori l'aria è corretta, mutevole e dolce, e il sole ti parla di care promesse. Così, quando scrivo, chino il capo nella polvere e anelo il vento, il sole e la mia pelle di donna contro la pelle di un uomo. Vabbè. Finish. Dai. Guarda, parole, voce, e se non rimaniamo senza voce, no, una meraviglia. Ma dai, dai. Non è che, io lo sai che non è che sto qui a fa il piacione ipocrita o il ben pensante, sono che dice quello che pensa, e questo è, ti fa far pace col mondo, una cosa del genere. Cioè, una voce così, un racconto così, evocativo, ti fa veramente bene. Mi fa piacere. Fa bene all'animo, fa bene alla gente. Io metterei molta più poesia ovunque, ma bello, bello. Con me questa poesia hai scelto perché ti piaceva? Perché, ma no, mi piace tutta la Merini, trovo che sia una poetessa straordinaria. Non ho letto altri pezzi perché lei parla spessissimo del manicomio e sono dolorosissime molte poesie. Mm-hmm. Però poi ce ne sono alcune, ma lunghe, cioè non se ne possono leggere dei pezzetti, bisogna leggerle no, tutte. Tutta la poesia, ecco. Assolutamente. Allora, io, essendo in questo momento così, voi dite di no, ma io no. Mi sento che non poi sono dopo questa poesia, sì, lo so, nelle migliori condizioni, ho detto prendo questa e scelgo. Però come un centravanti e dici oggi non sto benissimo, entro in campo con l'influenza, finisce sì. 4-0, ha segnato 4 con lui, vai a dire che c'ha avuto l'influenza. Ma noi, come abbiamo detto all'inizio, abbiamo dato un numero di telefono, non diamo solo i numeri tanto per caso, diamo dei numeri di telefono dove voi potete cimentarvi in una frase, in un racconto, ed essere messi alla prova. Noi i migliori li invitiamo qui a Radio 24 e daremo la possibilità a quelle voci di fare il giro dei nostri direttori, che magari sapere cosa ne pensano. Bene, di fronte a Maria Pia Di Meo c'è un emozionato signore, che io vado a leggervi. Il signor Andrea De Santis è nato ad Ascoli, Piceno, 45 anni fa, dove attualmente risiede, è sposato con due figli, ovviamente non è un attore, non è un doppiatore. Cosa è successo? Che cosa ti ha spinto a telefonare alla nostra voice box? No, io potrei andare via dopo quello che ha letto la signora. Io pure io dovrei alzare pure io, amico mio, ma noi rimaniamo tutti al nostro posto con coraggio. Esagerati. No, meravigliosa. Non mi ricordo la domanda. Scusate. Era semplicissimo. Si è perso i confini. L'Umbria con cosa confina? Le no, Marche. Le Marche confinano. Le Marche, tu sei le Marche, Ascoli Piceno, sì. Era una battuta al volo. Sì. Tu hai telefonato come tanti altri, noi abbiamo scelto perché non era male il tuo racconto di Biancaneve. Che cosa hai letto, Biancaneve? Sì, ho letto Biancaneve. Telefonate alla voice box, sì. Alla segreteria 828 12 12. Come potete intervenire invece in diretta all'824 00 24. Dimmi. Ho letto Biancaneve perché era uno di quei libri che ho a portata di mano, due bambini piccoli, quindi che loro bello, sono sapevo, c'ho due babysitter stasera, c'è Maria Pia Di Meo e Andrea pronti a raccontare storie, ma quella è la cosa più bella del mondo, saper sì, raccontare sì. Le storie. E inviteremo anche un caro amico che è anche un pediatra molto in gamba, che parla proprio della voce, del rapporto voce con i bambini, che sì. È fondamentale. Bello. L'emissione vocale con i bambini, in che modo, in che stato, in sì. Che momento, eccetera, eccetera. Lo inviteremo perché è una persona straordinaria. Allora, mi dicevi, vuoi leggere qualcosa, Andrea? C'hai Maria Pia Di Meo. Ecco, io appunto, mi tolgo. Un motivo per non leggere. Un motivo per salsa no, andasse, non è dice. Vero. Io sono no. Qua e mi fa molto piacere ascoltarla. Non so. Anche perché ditemi voi, io ho portato qualcosa. Poi questo è un provino perché sì. Noi daremo, come ho detto anche prima, la possibilità a questa voce di girare fra i nostri direttori e perché no, anche per un neofita tentare di incamminarsi, perché uno se magari cioè devi studiare, perché non si può improvvisare una cosa del genere. Però, insomma, può essere un gioco molto divertente questo. Posso essere sincero, sì. Poi quando uno fa questa premessa è bugiardo, invece no, in questo caso è sì, vero. E io ho iniziato a fare questo cammino, prima di studi e poi piano piano di qualcosina, 12 anni fa. Ho avuto prima come insegnanti Rodolfo Bianchi, Massimo Giuliani e la grandissima Susanna Iavicoli, che ricordo con grande, grande affetto. Tu che cosa fai nella vita, scusami? Allora, io mi occupo di vigilanza in un centro commerciale, perché dalle mie parti, insomma, non è che riesco a vivere di questo. No, neanche dalle nostre parti, più o meno, sai, te do sta notizia. Esatto, poi insomma... Ma il giorno, la notte, quando lavori, come beh, orari? Dipende. Faccio dei turni, io la mattina, bravo, la sera... Fai dei turni, sì, anche esatto. Noi. Anche noi, facciamo sì, dei turni. Anche esatto. Noi. Esatto. Noi abbiamo tre turni, 9:12, 13:30, 14:30, 14:30, 19:30. Non si sa come fai a essere puntuale se c'è il secondo turno a Piazzale degli Eroi e ce l'hai il terzo d'altra parte, che comincia allo stesso orario. Vabbè, comunque, e per quindi, cui tu ti sei già cimentato con curiosità. Sì, sì, è un po' di tempo. Ho avuto modo di fare qualcosina, ho fatto un documentario con Massimo De Ambrosis. Ah, ma lavora più di noi, Maria Pia. Ma allora il provino facciamo noi, ma perdono. perdona. Che provino. Però lui è un laico che ha trovato spazio, come altre persone che ci hanno chiamato, altri molto divertenti, che comunque va bene anche quel tentativo di recitazione, noi lo faremo sentire. Ma poi sai cosa è bello? Avere delle passioni. Cioè tu che sei di un mondo completamente diverso, hai una passione che è quella appunto della recitazione. Siccome ormai le passioni sono rare, cioè poche persone hanno passioni vere. Io non so, ho la sensazione che questi aggeggi, io non ho computer, non ho niente, sono proprio una ormai del passato. Sei analogica. Sì, ci assorbo. Sì, a me non me ne frega niente, le email non ce l'ho, non c'ho niente. Però penso che abbiano tolto in qualche modo anche la voglia di avere passioni, di parlare con gli altri, di confrontarsi. Di aspettare una bella lettera. Di aspettare una bella lettera. Lo so. Però in questo caso invece ha dato la possibilità ad Andrea di poter venire qui a stupirci. Hai capito? Sì. E ci leggi conosce, una cosa. E dico, sì. Allora... Ti diamo un minuto, eh? Sì, sì, sì, sì. Poi mi interrompete, non c'è problema. Questo è un libro di Philippe Delerme che... racconta quotidianità, una cosa banale ma bellissima. Come si intitola? Allora, è una serie di racconti. Di racconti. Questo che racconto è La domenica sera. E il libro intero? Anzi, intero. Allora, intero. Il libro intero, mi raccomando, intero. Ma è intero come colonna. E non è colonna, è come disposto, non è disposto. È come bosco. È come orco, e non orco. Non orco. Voi pensate che io, doppiando Il Signore degli Anelli, ho avuto delle difficoltà. Perché dovevi... E per me è orco, dicevo ogni due secondi, per cui arriva un orco. No, Pino, scusami, è un orco. Oddio. Ho capito. Ma chi lo dice? A un certo orco. Punto dietro una colonna c'era un orco. Per me è stato un dramma alla fine. E anche alla fine dico, Merry, Pipino, mollate le armi, viaggeremo leggeri, andiamo a caccia di orchi. L'ultima parola del primo signore era orco. Orca miseria. Via, leggi. Allora, mi chiese il libro, si chiama La prima sorsata di birra e altri piccoli piaceri della vita. E che bello il titolo. La domenica sera. Vuoi musica? Ci abbiamo una cosa, Sandro? Fate voi. Guarda, scegliamo una musica per te. La stessa della Di Meo. Sto a fare i tuoi a questo punto. Vai. La domenica sera. Non apparecchiamo, non facciamo una vera cena. Ognuno mette insieme, con quello che trova in cucina, uno spuntino ancora di festa. Ottimo il panino con pollo freddo e senape. Ottime le due dita di Bordeaux bevute in piedi. Gli amici se ne sono andati alle 6. Ci rimane un buon margine. Prepariamo un bagno. Un vero bagno da domenica sera. Con molta schiuma azzurra, molto tempo per stare a mollo tra due niente ovattati, brumosi. Lo specchio della stanza da bagno si appanna, la mente si offusca. Non si deve pensare alla settimana appena finita. Ecco, non pensiamoci più, fermati. Bravo, no. Però. Che dici, Maria Pia? Mi è piaciuto molto, bravo. Grazie. Sì, bravo. Ci si può lavorare bene. E da bella voce, che voglio dire, non è proprio... quello che conta di più, ma una bella interpretazione anche. Grazie, quindi puoi registrarti questo podcast e farlo sentire a casa da domani, ce l'hai sul sito di Radio 24. Sì. E questo, Maria Pia Di Meo ti ha detto qualcosa, io di dico la mia opinione, io mi registro, ed è una che dice la verità. Cioè, stai conservo tranquillo, solo la sua opinione, il resto no, il resto butta tutto. Non butta, però voglio dire, e io dico che appunto, cioè, fa molto bene. E allora questa è stata l'avventura del nostro amico Andrea De Santis. Ne avremo un altro che abbiamo scelto dopo, con il grande Dario Penne, il grande Anthony Hopkins. Oggi giornata di grandi Oscar qui a Radio 24. E bene, Andrea, io sono contento, ti sei fatto una bella passeggiata, spero che ne sia valsa la pena. Molto. Fatelo anche voi, tentate anche voi questa strada. Ovviamente il problema di Andrea comincerà ad andare in giro, questo senza raccomandazioni, perché non esistono nel doppiaggio. Non ne ho mai avuto. Cielo. Grazie Andrea, ma soprattutto io ringrazio la senza voce, fra virgolette, Maria Pia Di Meo. Grazie davvero per la tua simpatia, per come sei, per quello che ci hai raccontato e per quello che ci racconterai ancora. Io ringrazio voi e vi dirò che mi dispiace tanto di andarmene. E non te ne andare, resta qui con me, amore mio. Resta qui. A fra poco, Radio 24, Voice Anatomy. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta... Voice Anatomy. Bentornati, siete sempre su Radio 24. Io sono il vostro Pinuccio Insegno. Siamo qui per raccontarvi il percorso della voce in questa anatomia della voce. Vicino a me per tanto e lungo tempo è stata Maria Pia Di Meo, ma non se n'è voluta andare e noi siamo felici di averla qui come testimone oculare di questa giornata intorno alla voce, perché dall'altra parte ci ha raggiunto invece qualcosa di importante. Da quel punto di vista noi la analizziamo, la voce, e abbiamo un sociologo importante, Paolo Prato, che si è laureato in filosofia all'Università di Genova nel 79, nell'82 ha conseguito un master in sociologia alla New School for Social Research di New York. Nel 98 ha contribuito alla scrittura di Mina, una forza incantatrice, volume collettaneo interamente dedicato al fenomeno Mina. Allora, mi devi correggere con un po' di cose. Intanto questa parola, questa qui è bellissima, il significato. E poi prima ho detto una cosa e mi hai corretto o sbagliato. Intanto saluto Paolo. Buongiorno, buongiorno. Ti presento Pia, Maria Pia e ti presento tutti i radioascoltatori che sono nell'etere. Un saluto a tutti, grazie. Paolo, prima ho sbagliato il titolo di uno spettacolo teatrale molto importante perché è norvegese. Ho detto Per Gynt. Invece? Mi dicono che si dice Per Gynt. Confesso che io del norvegese conosco solo la capitale, che è Oslo. Ecco, io pensavo che fosse un'altra. Ma a parte quello. Ma insomma, mi dicono che si dice Per Gynt. La vedi l'educazione di una persona? Cioè, non è detto Pia. Si dice mettendosi le ali da maestro, ma ha detto mi dicono con grande umiltà, qualcun altro ha detto, per non farmi sentire in difetto. Beh, ma perché in genere tutti dicono Per Gynt, io l'ho fatto, certo. C'era Vittorio Gassman che diceva Per Gynt. Allora vedi, anch'io come Gassman, hai capito Paolo? Lui era genovese come me, quindi. Anche tu genovese, beh, io sono mio padre. Per Gynt, Per Gynt. Allora io parliamo sempre di voce, ma in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi meandri. La voce, come dico sempre, è il più potente strumento di comunicazione. Nel corso delle epoche storiche, poi, ha certamente avuto un'evoluzione. Insomma, vorremmo sapere da te, ci diamo del tu tranquillamente, caro Paolo. Assolutamente. Come si è evoluta da un punto di vista sociale? Perché uno parla della voce, eccetera. Tracciamo insieme questa piccola cronistoria della voce. Allora, facciamo qualche... percorriamo a grandissime tappe qualche millennio di storia. Oggi siamo due alunni, ecco. Maria Pia, stiamo a sentire. Ma io sono qua come una bambina all'elementare. È bellissimo, questo è un percorso che non abbiamo mai fatto, no, mai. Vocalmente, artisticamente l'abbiamo fatto, ma a livello sociale, la voce non l'abbiamo mai. No. E lui ci racconta. Allora, partiamo da un'epoca in cui esisteva solo la voce, e l'unico modo per comunicare era quello. C'erano i segnali di fumo, c'erano i tamburi, tante altre cose, ma i significati più pertinenti arrivavano appunto dalla voce. È l'epoca che gli storici, i sociologi, i filosofi definiscono quella della oralità, dove appunto la comunicazione è esclusivamente orale, e quindi la voce in quel contesto ha delle caratteristiche proprie, perché non deve solo comunicare dei significati letterali, ma deve anche comunicare qualche cosa di più, e quindi sono importanti l'accento, l'intonazione, il timbro, la grana della voce, come diceva Roland Barthes. C'è poi un'epoca in cui la voce, la comunicazione orale incomincia a convivere con una comunicazione scritta. Parliamo di epoche lontanissime, no? Siamo sempre molto indietro nel tempo. Ma c'è un'epoca in cui la voce incomincia a darsi altre funzioni. Parliamo del Medioevo, del Rinascimento, in cui nasce ad esempio il canto d'arte, il cosiddetto bel canto, l'epoca in cui poeti e stornellatori improvvisano e variano le storie, raccontano le storie. La stagione dei cantastorie inizia in realtà all'epoca dei Greci e non finisce nemmeno oggi, perché oggi stiamo... Questa è la voce come intrattenimento, anche lì, insomma. La voce come intrattenimento, ma la voce anche come cronaca quotidiana. Certo. Nel momento in cui stiamo parlando, a Rieti, in un paesino in provincia di Rieti, a Borbone, si sta svolgendo l'ultima giornata del Festival del Canto a Braccio. Il Canto a Braccio è il canto improvvisato dove due poeti, stornellatori, due cantori si sfidano su temi specifici, cercando di essere uno più bravo dell'altro. E noi avremo tra un po' una battle, come si dicono adesso, ce l'avremo, perché i nostri, quelli moderni, quelli erano i cantastorie, eccetera, queste così a braccio, abbiamo i rapper adesso, ma ne parleremo più avanti, perché Faremo un po' di tempo con te. Insomma, il Medioevo è questo, cioè si tramanda anche la storia con il menestrello, con il cantastorie, cioè si racconta la storia. Certamente, perché magari non era scritta. Esattamente. Era una... E quindi è una storia perennemente soggetta a variazione. E quindi gli storici della cultura popolare, quindi del folklore, ci dicono che ogni storia attraversa il proprio tempo ed è continuamente variata. Ci sono ballate che nascono nel centro Europa e finiscono in Sud America, in qualche modo portate e variate. Ma nascono anche degli eroi che non sono stati eroi a questo punto magari. Cioè la storia magari crescendo è come il passaparola, dice ho visto quello che, e poi piano piano diventa gigantesca. Certamente, quella storia. Certamente, perché non c'è modo, come dire, di ricorrere a un testo originario se non quando appunto la scrittura e l'epoca della stampa renderanno possibile ad il livello di massa il fatto che ci siano dei testi scritti. Quelli sono, ci possiamo sempre confrontare. È come la comunicazione di oggi, il word of mouth, cioè il passaparola. Il passaparola, certo. Cioè, già a quell'epoca era in questo modo. Per cui poi ecco, diciamo così, sempre facendo... Rimaniamo sul Medioevo. L'epoca che il Medioevo si porta dietro, appunto, a me piace individuare il bel canto come un momento di svolta nell'uso della voce, perché in quel momento, diciamo, la voce viene attribuita una funzione artistica di sperimentazione che non era mai esistita nel passato, cioè viene usata di per sé per le caratteristiche di suono, di bellezza che la voce può produrre. E il bel canto è la massima espressione artistica che incomincia a svilupparsi più o meno nel Rinascimento e poi nel 7-800 ha il suo momento di massimo spettacolo. Nelle corti o anche per la strada o nei teatri, dove si svolgeva soprattutto questa situazione? Un po' dappertutto? Un po' dappertutto, ma certamente soprattutto nelle corti, nelle perché corti. È un fatto di elite. Nessuno canta come cantano i soprani o come cantano i tenori. Cioè bisogna avere un'educazione, bisogna applicarsi, bisogna fare un percorso vocale, tu lo sai benissimo. Beh, e quindi diciamo è qualcosa di innaturale, di estremamente artificiale, che va di pari passo con l'epoca barocca, che è l'epoca dove l'artificio, la retorica, l'enfasi è arrivata padrone. Al massimo. Maria Pia, ti piaceva? Si è mai svegliato, non è così? No, sono molto interessata a quello che sta dicendo. No? Ti piaceva questo periodo storico? Ti sarebbe piaciuto vivere laggiù? No. Ma puoi anche dirlo più seccamente le cose se vuoi, senza retorica. No, mi sarebbe piaciuto, io preferisco vivere nel mio periodo. Nel Novecento, ti piace queste corti meravigliose? No, io non... cioè il passato in genere non mi affascina. La voce però, tu eri padrona, lì eri regina, capito, ma amore. Che facevo? La regina, con quella voce, non la devi neanche doppiare, lì tu. Mi affascina più quello che avverrà, il futuro, eccetera. Tornare indietro non so, mi mette quasi malinconia. Niente, no, parliamo di futuro, Paolo. Futuro. Perdiamo la vita di Meo così. Futuro, certo. No. Però a me piaceva invece quel periodo perché c'era il perfetto corteggiano, quello di Baldassarre Castiglione, l'uomo che sapeva affabulare, che sapeva canticchiare, che sapeva parlare, che sapeva giocare, certo, che sapeva di sport, sapeva di tutte, sapeva usare la voce bene, era quello che rimediava più di tutti a corte comunque, il perfetto corteggiano. Certo. Io lì, non ti dica la verità, sarà che la media d'età lì si spegnevano a 28 anni già di vecchio e se moriva è l'unica cosa che mi dispiace, però devo dire che insomma cominciavi non presto, si vede. No, il perfetto corteggiano, io scusate, non voglio essere io la trasmissione, ma è voi, soprattutto voi carissimi ospiti, ma a me quando mi parli di corti sarà che sono basso, un tasto dolente. Non mi piace tanto. No, il futuro. Hai ragione, perché effettivamente l'oratoria, l'arte di saper parlare, l'eloquenza. Dopo il Medioevo, ecco, questo. Sì. Stiamo attenti che se ci fate le domande poi ci ammazza. Però no, da lì beh, ma non siamo, rischia tutto, no? Scuola. Cioè, questo tipo di uso della voce, come direbbe Barthes, come strumento di potere, cioè la lingua dà potere a chi la sa usare. E quindi sa soggiogare, sa comandare, e quindi insomma qui sarebbe timbro... bello, perdonami, fare un bel excursus nei grandi dittatori della storia Che qualsiasi che un uso, ma questa è una cosa che approfondiremo strada facendo in Voice Anatomy, perché è bello capire per quale motivo quel personaggio ha avuto questo seguito, perché quelle persone l'hanno seguito così tanto, perché ha convinto tutti, cose che i nostri politici ancora non capiscono, che dovrebbero studiare un po' di più. Io faccio sempre un esempio: voi pensate se Braveheart in combattimento diceva andiamo tutti a combattere contro gli scozzesi, quello dice ammazzaio, torno a casa da mia moglie e sto tranquillo. La voce, come dicevi adesso tu, è quella forte. Dimmi. E quindi, diciamo, questa transizione da una voce usata come strumento di potere a una voce che invece spiana la strada alla democrazia avviene fra il 7 e l'800, cioè quando la conversazione diventa un fatto di costume importantissimo. E chi è al centro dei salotti, dei caffè letterari? Le donne. Ecco. La conversazione è un fatto squisitamente femminile. Ma dai, non ci posso credere. Si perde nella notte dei tempi, no, no. Sembra una battuta. No, invece la realtà. E ancora oggi è così. È così, non è cambiato niente. Ma infatti c'è un americano che ha definito le tecnologie della socialità, come il telefono e l'automobile, come tecnologie che hanno un elemento femminile potente. Ecco, io rimarrei su questo perché dobbiamo salutarci per pochissimo. Arrivano tantissimi sms, le poesie lette da voi fanno sognare, grazie Maria Pia. Io invece trovo che grazie ai doppiatori film vengono valorizzati, cioè c'è un po' di tutto, insomma. Va bene, continuate a scriverci, mi raccomando, restate con noi. Fra poco ancora il nostro amico sociologo che ci percorrerà attraverso il mondo della voce, Maria Pia Di Meo, non si muove più da qui con le Bianche da decubito. Pino Insegno resta qui, Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio 24, vi ricordo il numero verde per approfittare della presenza dei nostri ospiti e parlare con loro, 824 0024, i vostri sms che arrivano sempre numerosi al 349 238 6666. Bene, abbiamo tutto, abbiamo Twitter, non ci facciamo mancare niente, volevo sapere, insomma. E abbiamo al mio fianco a sinistra ancora la grandissima Maria Pia Di Meo, che ormai come un'alunna. Io sono un'alunna e poi sono molto curiosa, sì. E quindi mi piace molto quello che lui dice. E alla mia destra invece Paolo Prato, che è questo sociologo, filosofo, linguista, che ci sta facendo, prendendo per mano, e ci sta portando attraverso lo studio della voce dal punto di vista sociologico, cioè come è modificata il modo di parlare della gente, delle persone, dall'inizio della preistoria. Siamo arrivati al Medioevo, ai cantastorie, alla questa rievocazione orale del passaggio storico di alcune cose. Andiamo avanti, Paolo, andiamo, sì, avanti. Dove io, andiamo? Io, come direbbe Groucho Marx, sentirei quest'uomo parlare per ore. E quindi Groucho Marx quindi diceva anche un'altra bellissima cosa: abbiamo passato una bellissima giornata, ma non era questa. lì poi... Oppure è la quinta volta che parto oggi, non sono ancora andato da nessuna parte. Sì, beh, infatti è il padre vero di Woody Allen. È l'assurdo. Vedi che bello, un filosofo, sociologo, linguista che sa essere terreno, spirituoso. I Marx sono soprattutto filosofi, più ancora di Karl, sì, ma un modo. Po' di più, lui è stato una filosofia un po', un po' stretta, importante che anche quella. Allora, stavamo parlando dell'importanza del dialogo, e poi certamente ci siamo fermati sull'artificio del bel canto. Io so che voi avete preparato un esempio, sì, che è molto pertinente. Suggerito. Sì, ve l'ho suggerito. Tu sei sempre così umile, che io invece dico la verità, perché non mi sarebbe mai venuto in mente il bel canto, avrei detto altre cose magari. Però questo è proprio nel periodo. C'è un motivo, perché insomma se ne possono scegliere tanti di esempi. E questo è il grande Wolfgang Amadeus Mozart, l'aria della regina della notte dal flauto magico. Sentiamo e poi ascoltiamo. Ovviamente non ero né io né Maria Pia che stavamo intonando questo bel canto. Eccolo, un momento. Ma questo vocalizzo pazzesco, E qui si arriva al fa sovracuto, che è una di quelle note che non il tutti... fa sovracuto. È una nota altissima. Uno parla sempre del do tutti. Di petto, noi comuni mortali diciamo il do di petto. Invece c'è il fa sovracuto. Come... Sì, è una nota molto alta che nel pianoforte sta nell'ultima zona, a destra, là in fondo, e che appunto non è appannaggio, insomma, proprio di tutte le voci. Ma io ho scelto questo esempio perché, se mi permetti, una piccola diciamo variazione sul tema. La regina della notte che Mozart ha scelto è l'archetipo della grande madre. La grande madre è la rappresentazione del mondo quando dominavano le donne. Quando esiste questo passato, utilizzi, scusami Paolo. Lo sapevo, era telefonata. Andiamo avanti, questa trasmissione sulla voce. Tu sai che esisteva un periodo che insomma gli storici chiamano il matriarcato, dove appunto erano le donne ad avere. Me l'ha detto mia moglie, che è antropologa. Ci ho litigato un giorno quando diceva: noi uomini portavamo da mangiare a casa nelle caverne. No, tesoro, ti spiego. La famiglia era matriarcale. Secondo me anche adesso è matriarcale. Sì, ecco, sta cambiando la trasmissione, sta diventando sociopolitica. Poi la voce è femmina, no? È donna, voce. Esattamente. Questo personaggio della regina della notte, che emette questo grido straziante, noi l'abbiamo sentito chiacchierandoci sopra, e quindi forse non abbiamo dato quella giusta attenzione a questo urlo che corrisponde a questo fa. L'urlo è un urlo spaventoso, è un urlo di angoscia che in qualche modo ci riporta all'epoca in cui esistevano appunto i culti della grande madre. I culti della grande madre erano culti sanguinosi e crudeli, si compivano orrori e abomini terrificanti, e quando le donne urlavano mettevano spavento a tutti. Tuttora, ma abbiamo una telefonata importante, perché anche l'argomento è importante, allora... Eccola, Crescenza da Roma, addirittura anche un nome... No, da Mula di Bari, Bari. Va bene, la colpa non è mia. Che cosa? No, vabbè, da Roma, non è importante. Da Mula di Bari? Sì, in provincia va bene. Di Bari, a 20 provincia... chilometri da Bari. Sì, la conosco perfetto. Dici tutto, è molto interessante quello che hai da dire, dici. Sì, io sto seguendo con molto interesse quello che stanno dicendo. Mi è venuto in mente di rivolgere questa domanda o fare una segnalazione, non so esprimere il mio pensiero, quando lei ha introdotto, no, il sociologo dicendo voce potente strumento di comunicazione, e io ho pensato subito agli insegnanti, perché un insegnante, per esempio, che abbia una voce, un'inflessione dialettale, certamente non può comunicare bene con i ragazzi, oppure che abbia quella connotazione, oppure quella inflessione, che sia del sud sia del nord, completamente, molto spesso anche al nord quella inflessione dialettale, che molto spesso non si riesce a capire bene ciò che, come il significato della parola italiana, cioè in generale. Quindi io ritengo, perché guardi, c'era una preside che diceva: gli insegnanti devono affascinare i ragazzi. Sono d'accordo, cioè, con devono carpire proprio l'attenzione, più che carpire, cioè coinvolgere i ragazzi, prima di tutto con la voce, perché la voce poi, dalla voce si trapela la passione per l'argomento, la convinzione, la preparazione dell'insegnante, l'entusiasmo che l'insegnante ha per il suo lavoro. È perfetto, Crescenza, ti ringrazio perché è un percorso molto interessante, non voglio interromperti, ma voglio dare la possibilità ai nostri due grandi professionisti di poter raccontare la loro. Io sono pienamente d'accordo in questo, l'entusiasmo, la passione, il modo di affascinare i ragazzi è fondamentale, non si deve essere per forza una doppiatrice, per esempio Paolo sta affascinando con il suo racconto. Che dici, Maria? Ma io penso che non sia soltanto una questione di voce, cioè noi abbiamo tanti insegnanti che appunto hanno delle cadenze dialettali, quindi si tratta di fare uno studio sulla dizione, e quindi attraverso la dizione anche sulla voce, ma non è solo voce, Chiaro, ma anche non lo so chi sta in politica e sì, che parla, come sappiamo, come parlano in tutti i modi, alcuni politici, no, avrebbero bisogno di fare dei corsi di dizione, di impostazione della voce. Ma per questo non ci sono più nuovi leader, anche per questo. Perché, no, ma abbiamo avuto dei leader magari con degli accenti, però avevano altri valori. Ora, lasciamo stare i valori. Sì. Non c'è colore politico. Parliamo del portare la voce, sì, del affascinare con la voce, del non avere quelle cadenze dialettali che sono a volte insopportabili. Sì, sì. Quindi non è solo voce, è anche cultura della voce e del dialetto. Cioè i dialetti vanno eliminati, perlomeno alcuni. Poi se possiamo dire che i dialetti napoletani sono molto simpatici e accattivanti, questo è un altro discorso. Si possono utilizzare in altri casi, in sicuramente, altri casi, non è una scuola. Ma non a scuola. No, ma infatti poi si dice anche i noduli dell'insegnante, che non sanno usare la voce, allora no, un insegnante perde la voce come allo stadio. E invece Paolo, sì, tu... allora no, io starei molto attento a eliminare i dialetti, francamente. No, perché Maria Pia prova a interpretare. Per chi deve comunicare. Certamente. Deve comunicare. Allora, la scuola deve proporre un modello universalistico di insegnamento e il modello universalistico, la matematica è la scienza più universale che esista perché prescinde totalmente da qualsiasi contesto, da qualsiasi vissuto. Via via che ci avviciniamo alle scienze umanistiche, cioè anche se uno dice due per due fa quattro, fa sempre quattro, quindi un sapere universalistico legittimo, che è lecito, è giusto che sia insegnato in un modo universalistico, cioè prescindendo dagli accenti locali, ma in un altro contesto, in un contesto artistico, nel contesto dei poeti stornellatori, il dialetto è un valore aggiunto, è un'altra cosa, è un valore aggiunto. E lì va benissimo, ma i dialetti vanno salvaguardati. Noi parlavamo della scuola, proprio della scuola, cioè, della scuola che deve essere più affascinante. Manderemo Maria Pia Di Meo a doppiare una professoressa, santa miseria. No. E noi abbiamo anche un esempio moderno, no? Per poi arrivare all'ultimo blocco insieme con i grandi freestyler e ci divertiremo qui in radio a inventare rime moderne. Da quel punto di vista abbiamo lo scat, che è un nuovo, anche quello, col grande Gegè Telesforo, che lavora anche lui, rende questa radio migliore raccontandoci di musica e quant'altro. E noi sentiamoci questo bel esempio da parte del professore, poi magari abbiamo anche un esempio vocale vero. Sì. Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a low down hoochie coochie. She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart as big as a whale. Are, are, are, Hulk and the Cap Calloway. Ho avuto la fortuna poi di conoscere la trasmissione di Gianni Minà. Sì, eravamo nella stessa roulotte, io, Cap Calloway e Vittorio Gassman. Io non c'entravo proprio niente in quella roulotte. Beh, ma pure Gassman con Calloway. Sì, però insomma, due grandissimi. Ero soltanto testimone silente. Bellissimo. Di questa situazione. Però, questo è un primo esempio di scate quando comincia a fare. Parte come un treno, una cosa si accelera, velocizza tutta la gente che gli va dietro. Una grande evento di effervescenza collettiva meravigliosa. Tracima e trascina da questo punto di vista, ma poi ce ne sono tanti. No, lo scat è un esempio che si profila, diciamo, a livello commerciale negli anni 30 in America, ma che in realtà diciamo gode di una tradizione ancora più antica, da fine 800. Addirittura? Sì, da fine 800 le comunità dei giovani afroamericani tutto da lì parte. Partono, fanno giochi linguistici, sanno improvvisare sulla voce perché è il loro modo di utilizzare l'unico strumento di cui possono disporre e possono comunicare. È come è stato il tip tap, perché molta gente magari non sa che il tip tap nasce nelle piantagioni di cotone, non potendo parlare fra loro per essere poi siamo pestati di botte eccetera, con i piedi si facevano una sorta di alfabeto morse e da quel punto di vista nasce il tip tap. Tutto nasce da una cultura. Bene, ma il tempo corre, ma non abbiamo finito, abbiamo ancora un altro momento insieme che è quello proprio attuale, si sono pronti tre freestyler. Io a questo punto saluto invece Maria Pia Di Meo e lascerà il posto a questi freestyler straordinari. Anch'io. Che ti godrai in regia. Va bene? Anch'io vi saluto, sono molto contenta di essere stata qui e vabbè, alla prossima. Assolutamente sì, a tra poco con Voice Anatomy. Arrivederci a tutti. Voice Anatomy. Occhi viola, occhi viola, il Crisa, il stricchinino, il rap nato per strada. ragazzina sta per strada e fa così, così. Appena possibile svoltare, appena possibile svoltare, appena possibile svoltare, appena possibile, possibile, possibile svoltare, appena possibile entrare in voce. E là, eccoci qua, cambiamo marcia da questo punto di vista, anche se la trasmissione cammina e anzi corre. C'è sempre al mio fianco Paolo Prato, straordinario sociologo, linguista e quant'altro, che ci sta prendendo per mano, accompagnandoci attraverso il mondo dell'evoluzione vocale all'interno dei secoli. Dall'altra parte ci hanno raggiunto un duo di rapper straordinario, che io conosco perfettamente, ho avuto anche in un mio spettacolo, e sono un esempio giusto di quello che dovrà parlarci Paolo, proprio delle queste gare, queste battle invece da parte loro, questi freestyler che si combattono a suono di rime moderno, che è proprio il rap da questo punto di vista. Loro sono i due Occhi Viola, formato dal Crisa e da Stricchinino. Buonasera. Buonasera. Ecco, sentite l'inflessione del nord-est asiatico. Nascono nel 2007, sono di Roma, è una zona Beautiful Sister Tower, come si dice, Torbella Monaca, Torbella Monaca, dove veramente le persone che si avvicinano a questa tipologia di musica sono veramente arrabbiate. È il Bronx di Roma, insomma. Esatto. In qualche modo. Non so. Sì, il Bronx nel senso bello del tempo. Dove nasce? Bello, sì, è un quartiere bellissimo. Assolutamente, ma dove nasce? Purtroppo dove c'è? L'hanno sfasciato in varie epoche, lo hanno distrutto, e dalla distruzione del Bronx, dagli appartamenti che venivano occupati e rioccupati, si organizzavano le prime feste nei basement, e dove si portavano i piatti su cui far girare i vinili, che era tutta musica da ballo, che era musica disco, funk, eccetera, e con un microfono i maestri di cerimonie nei primi anni 80, anzi tardi anni 70, improvvisavano sopra quello che probabilmente faranno anche loro, una roba del... Sono passati più di 30 anni, anzi 35. Per cui siamo passati, c'è stata questa evoluzione, insomma, questa voce, eccetera, evocativa, il bel canto, la voce 2.0. È così, siamo di nuovo ricaduti in una era di oralità straordinaria, che appunto potremmo chiamarla 2.0, ma in realtà era già stata prevista da McLuhan negli anni 60. Beh, sì, McLuhan ha detto quasi tutto. Ha detto quasi tutto, sì, infatti potremmo anche chiudere bottega e andarcene. Ma non tutti sanno chi è McLuhan, noi non glielo diremo. Non glielo diciamo, non adesso. È giusto andare a approfondire anche per conto proprio. E allora abbiamo la possibilità di divertirci, fra virgolette, utilizzando due professionisti di questo tipo. Noi possiamo dire, voi avete portato un beat di sottofondo, perché ovviamente sì, serve un beat di sottofondo per dare il tempo. Professore, Paolo, dai un tema ai nostri ragazzi, una parola, una cosa, e loro vanno dentro al tema senza colpo via. Non ci siamo neanche preparati, sentite dalla pausa del professore. Qualsiasi cosa. E che facciamo? Non che lo so. Diciamo? Ma puoi dire qualsiasi solitudine, cosa. Solitudine. Ansia, diciamo qualcosa di bello. Noterete questa gioia poetica del nostro amico. Solitudine, ansia. C'è un clima molto che positivo. Xanax, a sto punto Xanax, si può dire un medicinale. Qui si chiamano freestyler. La no, perché situazione. Magari con queste parole un po' negative, invece loro ci mettono l'ironia, ci mettono e questa è la sfida poetica. La positività. Esatto. Ci mettono la, vediamo, la carica, vediamo. Non lo so quello che combinano. Io ogni tanto a teatro si improvvisava e andavano ovunque. Questi sono i poeti, il combattimento dei poeti di una volta, insomma, no? Adesso si combattono così. E allora vai col beat, Alessandro. Il tema qual è? Solitudine e ansia. Solo. Improvviso senza l'inchiostro. Solitudine non è il caso nostro. Lo vedi adesso faccio coro da stadio. Lo vedi siamo in tanti dentro questa radio. Dopo il personale vai giù con la rivalsa. E non le sento ste notizie, ansia. Mo lo senti come si danza sto giro. Parlan così tanto dopo seguo il filo. Lo vedi adesso senza stop, no dal bronzo e io no tragico. Vedi adesso in mezzo al traffico. Stricchinino resto vero, resto solo. Vedi adesso quando rappo poi ti scuoto il sottosuolo. Crisi Stricchinino giù dal palazzone. Solitudine o una brutta informazione. Torbella Monaca nel posto, Torbella mostro. Lo senti adesso come va, non c'è persona che non conosco. Lo vedi adesso saltano i piani. Ho fatto rap da solo per non avere i calli sulle mani. Solitudine, faccio una similitudine. Lo vedi adesso come va, io con l'incudine. Oh sì, va così e poi mi viene da ridere. Che buono, devo chiudere. Devi chiudere. Io devo vivere. Bene, bravi, è pazzesco, scusa. Ma capito, io non seguo intervenire. Formidabile. Sì, ma questo è niente, loro è bellissimo, pensa a portarli in giro con te. Non ce l'avamo nemmeno visti un attimo prima, assolutamente possiamo dirlo. No, ma si è sentito anche dal tuo imbarazzo nel scegliere le parole, sì, non essendo tu un attore si capisce. Se vuoi tentiamo un'altra strada, e devo dire che loro, io ho avuto la fortuna di conoscere in un censimento che abbiamo fatto con la mia società di comunicazione, Filippo Cellini, che è anche regista e autore di questo programma. Siamo andati in giro un po' per Roma a cercare talenti, veramente, non era sicuramente, non era un talent dove non si vinceva niente, volevamo soltanto far presente che esistono dei posti silenziosi ma che urlano. E abbiamo trovato tante persone, loro, ho avuto poi anche la fortuna di portarmeli a teatro in uno spettacolo, il primo con gli ologrammi in Italia, e loro erano straordinari, entravano in un mondo di favole. Altre due parole, altre tre parole, una parola, come vuoi. Ma guarda, allora, siccome io... Mettici pure Paolo Prato, te lo dico io. Vediamo un po' se, a partire da un ragionamento che io faccio da tempo, cioè che il rap nasce contemporaneamente, si sviluppa, si ingigantisce a livello mondiale, contemporaneamente alla telefonia mobile, cioè ai cellulari, e quindi a questa religione della chiacchiera che impera dappertutto. Quindi chiacchierare, parlare, telefonare, cellulare. Questo è un po' Vai. Cellulare. Hey, tempo della comunicazione. Sbaglio tutto e sbagli le parole. Quindi devi stare ben attento a sentire ciò che dici e a dire ciò che sento. Lo vedi adesso con ste rime, io comunico. Lo vedi a regolare che comunque arriverò. Porto flow, poi ti metto KO. Faccio la fusione, improvvisazione. Vedi adesso, prestami attenzione. Oh, va così, un film di Lucio Fulci. Va così, stile Meucci. Quando suona il tirotele e poi squilla e suona tutto e poi trilla. Vedi adesso come va che poi vado a scatti. Tu occupato ma poi non mi batti. Sai com'è dentro la sfida, stricchinino più crisa. Vado avanti fino a che non è finita. E ci si chiama sempre per il volere delle banconote. Bella lode, non mandarmi un poche. Roba d'FB, Chris e stricchinin MC sopra il mic insieme a P. Stricchinino TBM 5 stelle, telefono delle banconote, mica delle bancarelle. Yeah! Va bene, allora io devo salutarvi perché abbiamo proprio un tassativo. Io ringrazio ancora il duo Occhi Viola, Crisa e Stricchinino. Grazie, ci saremo a modo, c'è un modo grazie di mille. Frequentarci ancora di più. Grazie a Paolo Prato di averci grazie preso per mano in questa grazie geografia vocale. Ci vedremo ancora, carissimo buon Paolo, e anche voi ci sentiamo tra pochissimo. Voi Sanato. Benvenuti, tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30, con me c'è Carlo Genta, Pierluigi Pardo, ancora tu, ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, facciamo programma più serio, molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. Un po' meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Voice Anatomy. Bentornati signori a Radio 24 e Voice Anatomy in compagnia di Pino Insegno. Abbiamo fatto un bellissimo percorso oggi con Maria Pia Di Meo, con degli ospiti freestyler straordinari, con il nostro Paolo Prato, il sociologo, e vicino a me ne ha raggiunto l'altro ospite d'eccezione. Ma prima di presentarlo vorrei ricordarvi i nostri numeri. Diamo un po' i numeri, il numero per chiamarci in diretta 800 24 00 24, per i vostri sms 349 238 6666. A proposito di questo ne leggo alcuni dei tanti. Ciao Pino, una curiosità: perché spesso si spezzano le consuetudini cambiando i doppiatori storici a visi iconici? Pensavo ai dei tuoi ospiti, Di Meo spesso assente nelle versioni cantate di Meryl Streep, Mamma Mia recente dove eravamo rimasti, e Penne sostituito da proietti su Hitchcock. Solo motivi aziendali o ragioni di musicalità? Beh, certe volte sono anche motivi sconosciuti anche a noi stessi doppiatori, altre volte sono gli stessi americani che pretendono una voce identica all'originale, come spesso è, altre volte, come ripeto, ci sfugge il motivo originale. Grazie a voi ho pranzato con Meryl Streep, Barbara, Jane e Romy, che sballo. Ma ancora non avete riconosciuto l'efficienza della signora Di Meo? E allora grazie per la trasmissione, è un patrimonio da preservare. Pino, non hai una voce radiofonica. Vabbè, oh, ci sta pure questo. Va bene, allora accettiamo serenamente. E poi volevo farvi, ecco, questo è importante. Volevo farvi complimenti, ma devo dire che senza i doppiatori i film non avrebbero dato anima ai doppiatori italiani, eccetera. Ma ce n'è un altro, ancora più interessante. che grazie al doppiaggio si pensa alle persone più sfortunate come gli ipovedenti, non vedenti, ed è importante per noi sapere di cosa si sta parlando guardando un film. Questa è una cosa che in effetti non ci si pensa, ma è grazie di questo, di questa sollecitudine, di questa... Io sto cercando, mentre parlo sono molto distratto perché stavo cercando esattamente l'SMS. Vabbè, lo troverò. Comunque grazie anche di questa sottolineatura. E allora, vicino a me, dicevo, c'è un signore che è nato a Trieste il 17 febbraio, non diciamo in che anno. Moltissimi anni, troppi anni fa. Negli anni 70 siamo andati con Leghero, la società di doppiaggio, la Defis, poi passò alla CVD, alla CDC, attualmente è un doppio libero, un attore, un doppiatore, un direttore di doppiaggio, ma un grandissimo attore. Miglior doppiatore dei premi vinti, non poteva vincere il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio del 2010 e quant'altro. Allora, lui ha appena parlato, però vogliamo sentire la sua voce attraverso alcuni momenti di film importanti. Agente Starling, tu pensi di sezionarmi con questo strumento spuntato? No, io pensavo che la sua conoscenza... Sei molto ambiziosa, vero? Sai cosa mi sembri con la tua borsetta pulita e le scarpette a buon prezzo? Mi sembri una campagnola. Un'energica campagnola ripulita con poco gusto. Sei stata nutrita bene e questo ha allungato le tue ossa, ma non ti sei spinta più in là di una generazione rispetto ai rifiuti umani da cui provieni, vero? È quell'accento che hai tentato così disperatamente di perdere, pura Virginia occidentale. Che fa tuo padre? Fa il minatore? Puzza ancora di lampada a petrolio? So come ti hanno scoperta in fretta i ragazzi, tutti quei noiosi, puzzolenti palpeggiamenti sui sedili posteriori delle macchine, mentre tu avevi un solo sogno: andartene via, cercare qualunque cosa ti desse la possibilità di arrivare all'FBI. Non è quello che dici di Drew, è quello che non dici. Forse non ascolti. Oh sì, invece. Non un'ombra di trasalimento, un bisbiglio di eccitazione. Questo rapporto ha la stessa passione di una coppia di nipi reali. Voglio che qualcuno ti travolga, voglio che tu leviti, voglio che tu canti con rapimento e danzi come un derviscio. Ah, tutto qua. Sì, abbi una felicità delirante. O almeno non respingerla. Certi uomini non cercano qualcosa di logico, come i soldi. Non si possono né comprare né dominare. Non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo. Al mio fianco, con grande paura, ma è un uomo straordinario, c'è Dario Penne, e l'applauso. Buonasera a tutti, grazie di questa presentazione bellissima, grazie. Vabbè, te la meriti tutta. Sentirlo ridere a me mi rilassa moltissimo, perché dopo aver sentito Il silenzio degli innocenti, e poi vi presento Joe Black invece, dove fai la morte, il grande sì. Anthony Hopkins, no, diceva, cioè, che era la morte destino. era Joe Black che portava via sì. Anthony Hopkins dalla morte. Però io muoio invece, ecco, alla fine del film. Però tu sei qui, questo è importante. E poi abbiamo sentito una cosa più attuale, che era Michael Caine di Batman, il Cavaliere Oscuro. Ma che bella, è una cosa straordinaria. Due grandi oggi, Maria Pia Di Meo e il grande Dario Penne. Dario Penne, però prima di addentrarci al profilo proprio del mondo del doppiaggio, vorrei soffermarmi sulla vasta esperienza di attore teatrale che ho avuto modo di... Sì. Tu cominci professionalmente a Torino nel 57 col Teatro Stabile, oppure... Non a Torino, a Trieste. A Trieste. A Trieste, col Teatro Stabile. È vero, Trieste, scusami. Sì. Ho fatto 10 anni di teatro prima di arrivare a Roma. Dunque, il mio arrivo al doppiaggio è molto casuale. È un percorso lungo, infatti. Un percorso molto lungo. Perché dopo 10 anni di teatro e di radio... Perché allora poi si faceva moltissima radio, che è un mezzo che io adoro, infatti sono contentissimo di essere qua, perché per me la radio è forse il mezzo più bello per un attore, perché bisogna far tutto da soli con la voce. È evocativo, è bellissimo. Cioè, mentre in teatro c'hai la scenografia, c'hai delle cose da vedere, cioè puoi essere bello, brutto, al cinema non ne parliamo, o in televisione uguale. Lì invece devi fare tutto con la voce. Esatto, diventa corpo. Dare raccontare le emozioni, raccontare tutto, farti capire, far capire il personaggio, eccetera, eccetera, tutto da solo. Infatti, i radiodrammi di una volta erano bellissimi. Io ne ho fatti tantissimi, infatti, e amo infinitamente la radio, secondo me. E ti dico, è uno dei mezzi più belli, insomma, per l'attore. Ma infatti, questa vuole essere proprio, proprio la storia di Radio 24, da questo punto di vista, è proprio questo, sta regalando proprio un'altra domenica da questo punto di vista, proprio un percorso evocativo in tutto, a tutto, storie. Ma infatti storie. Ho sentito prima un pezzo, mi è piaciuto moltissimo, è una bellissima trasmissione, complimenti. Grazie. Comunque stavamo dicendo, sì, io ho fatto 10 anni di teatro. A Trieste, poi spostato. A Trieste e poi mi sono spostato a Milano. A Milano. Dove ho fatto anche uno spettacolo addirittura con Streller. Con Streller. Niente, poco di meno. Il grande Giorgio Streller. Il grande Giorgio Streller, che era veramente un grande, proprio grande, grande, grande. Cosa hai fatto con lui lì a Milano? Era un testo bruttissimo, purtroppo. Viva la sincerità, potevi dire qualsiasi cosa, no, invece sei stato sincero. La verità, un testo italiano di Salvato Cappelli, poverino, non vorrei offendere, ma insomma era piuttosto brutto. Aspetta, c'è in linea Salvatore, dimmi, sta chiamando il dottor Cappelli da... Ed era sulla... Però regia di Streller, Dario, dai. No, appunto, nonostante il testo, c'era regolarmente un applauso a scena aperta tutte le sere, perché era sulla bomba atomica, su quel equipaggio che ha sganciato la bomba atomica, il pilota poi addirittura si è suicidato, eccetera, eccetera. Sì. C'era tutta quella storia lì. E comunque Streller è riuscito a far scoppiare la bomba atomica ogni sera in sala. E lì veniva l'applauso a scena aperta. Tutto un gioco meraviglioso di suoni e di luci, per cui veramente avevi l'impressione che scoppiasse la bomba atomica in teatro. La gente applaudiva perché l'attore moriva finalmente e finiva lo spettacolo. No! No, proprio dall'emozione veniva l'applauso. Sì, credo. Assolutamente, doveva venire l'applauso. C'è una telefonata, c'è Bruno da Teramo. Benvenuto Bruno. Benvenuto. Pronto? Sì, sei in diretta. Salve. Salve. Allora, io, prima cosa, sono emozionato perché la vostra trasmissione è bellissima e il doppiatore della voce di Anthony Hopkins del Silenzio degli Innocenti è la migliore voce al mondo, secondo me. Grazie. Secondo la mia piccola considerazione, perché insomma, no, io è una non grande. Sono... Ecco, ogni volta che sento la sua voce, ma mi capita spesso con diverse grandi attori che doppia. La domanda, sì. Bruno, la domanda che dobbiamo fare. La domanda è che, se vi capita anche a voi, io chiudo gli occhi e continuo a sentire la voce. È un sogno bellissimo, se vi capitava anche a voi una cosa del genere. Cioè, la voce è più importante del film. E mi è capitato tante volte sentendo la voce di questo grande doppiatore. È un'asserzione più che una domanda, insomma, però va benissimo. Grazie, cioè, è un complimento. Cioè, vive la voce senza l'immagine. Magnifico. E questo è il nostro percorso. Resta qui, voce. Il tuo corpo può andare dove vuole. Noi ci salutiamo per un attimo. Torniamo in compagnia di Dario Penne, di Voice Anatomy e purtroppo anche di me. A tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta. Voice Anatomy. Deve essere un certo tipo di persona per guardare un altro negli occhi e sparare. Vostro onore, lui ha ucciso la moglie. La verità è che non ha prove. Niente impronte, niente arma, niente sangue. Ci prende in giro. Quell'uomo ci sta prendendo gusto. Ah sì, ci stiamo prendendo gusto anche noi ad avere Dario Penne qui in studio. E a proposito, ho trovato l'SMS di prima, lo leggo bene. I criticoni contro il doppiaggio dimenticano sempre gli spettatori non vedenti, ipovedenti, dislessici e anziani. Viva voi, detto da Davide e tante altri SMS, continuate a mandarceli. E noi abbiamo qui Dario Penne, vi ricordo sempre il numero ovviamente per i provini del Voice Talent, 828 1212, invece per entrare in diretta con noi 824 0024. Come abbiamo chiesto l'altra volta ai nostri carissimi amici doppiatori, attori, di leggere qualcosa di evocativo, come ha fatto prima e diceva di essere senza voce Maria Pia Di Meo, ma sì, ci ha fatto venire i brividi. Anche a te abbiamo chiesto qualcosa e tu ci hai portato gentilmente una piccola lettura tratta da... tratta dalla coscienza di Zeno di Italo Svevo, in quanto io sono triestino, per cui lo adoro. Di parte, però sì, insomma, è adorato un po' da tutti. Dai. No, ma mi interessa questo pezzo perché è incredibile. Siccome è stato scritto nel 1921, prima che cadessero tutte le cose terribili che sono successe l'altro secolo, cioè il nazismo, cioè la bomba atomica, cioè l'inquinamento generale dell'aria, eccetera, eccetera, molto prima, questo Svevo aveva pensato di scrivere questa cosa qua, alla fine della coscienza di Zeno. Vado? Per cui 90 anni fa più o meno scriveva questo. E allora Dario Penne, oppure Anthony Hopkins, oppure Michael Caine, decidete voi, la coscienza di Zeno. Prego. Il dottore, quando avrà ricevuto quest'ultima parte del mio manoscritto, dovrebbe restituirmelo tutto. Lo rifarei con chiarezza vera, perché come potevo intendere la mia vita quando non ne conoscevo quest'ultimo periodo? Forse io vissi tanti anni solo per prepararmi ad esso. Naturalmente io non sono un ingenuo e scuso il dottore di vedere nella mia vita stessa una manifestazione di malattia. La vita assomiglia un poco alla malattia, con i suoi giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie, però, la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati. La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie e ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio, ma può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco. Ma non è questo. Non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia, che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa si interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo si ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà senz'altro stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori dal suo corpo. E se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comprano, si vendono e si rubano, e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi, si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungamenti del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma oramai l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psicoanalisi ci vorrebbe. Sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo, fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri forse un po' più ammalato, ruberà tale esplosivo e si arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà, e la terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. Ma questa era la bellissima voce e interpretazione di Dario Penne di Italo Svevo, questo è il momento finale, credo che era l'ultime due pagine. L'ultima due pagine della coscienza di Zeno. Di sì, Zeno. Che è un capolavoro, secondo me. Beh, poi ho letto così, amico mio. Abbiamo cominciato quel percorso che ti porta da Trieste a Milano con Strehler, da Milano Firenze la radio. A Firenze la radio, perché a Milano, allora, si usava fare un provino per attori, diciamo, cioè appunto giovani, sì, che già lavoravano, eccetera, eccetera, facevano dei provini, perché siccome c'erano proprio per la radio, per la radiofonia, c'erano le compagnie nelle varie sedi della RAI, quasi tutte le sedi più importanti avevano una compagnia di prosa. Una compagnia stabile, insomma. Compagnia stabile di prosa. E per cui facevano i provini, appunto, per trovare questi attori da usare in queste compagnie. E io, appunto, ho fatto questo provino a Milano e devo dire che alla fine del provino mi volevano lì a Milano, a Torino, a Firenze, a Napoli. Ma che bella cosa quando è così. Sì, è bello, è stato molto bello. E tu sei a Firenze? Io ho scelto Firenze perché era più vicina a Roma, perché comunque avevo intenzione di arrivare a Roma. E siamo arrivati. E quindi la canzone di Vendite, bomba non bomba, siamo arrivati a Roma. Cioè, si è arrivato finalmente da Trieste, arriviamo a Roma. A Firenze venivano su tutti gli attori da Roma, appunto, quelli che non erano nella compagnia, certo, stabile, venivano tutti. Per cui l'utilizzo della voce è diverso, insomma, già devi essere uno bravo e pratico a capire se ho in teatro c'è un certo tipo di voce, se reciti per radio è un altro tipo di voce. Infatti mi sono innamorato subito del microfono. E sei venuto a Roma e lì è nata la tua avventura col doppiaggio. Di questi attori che venivano su da Roma mi dicevano: ma tu non fai il doppiaggio? Dico: no, veramente non so così, so cos'è, nel senso che vado al cinema, ma no, non ci penso, non ci ho mai pensato. E invece no, perché tu probabilmente con questa voce avevano ragione. Ma soprattutto con queste intenzioni, perché non è tanto la voce, diciamo sempre, sono le intenzioni che poi fanno bene. Anche secondo me. Sono quelle. Tu puoi pure una voce particolare, ma giusta. Infatti, altri SMS, direi che a volte i doppiatori italiani, come in questo caso Dario Penne, sono meglio degli attori che doppiano. L'addizione da non confondere con la voce, quella era Evelina, con la voce impostata è molto importante, soprattutto per chi deve sempre comunicare con più persone, insegnanti, eccetera. Nicola, insomma, viva il doppiaggio, trasmissione molto interessante. Poi leggo pure quelli negativi, ma qui non c'erano, e altri così avanti. E c'è una telefonata invece fra le tante, abbiamo scelto questa di Rosaria da Roma e noi ci colleghiamo immediatamente con lei. Rosaria, pronto? Buonasera a voi. Grazie Rosaria di aver chiamato. E cosa ci dici, visto che non vinci niente in queste telefonate, ma solo la possibilità di interloquire con i nostri ospiti? Ho vinto la cosa più bella, penso, del mondo, perché io, da appassionata di doppiaggio, e dal mondo dell'animazione, ho la possibilità di parlare con due grandi voci dell'animazione e del doppiaggio. Bene, adesso però il protagonista è assolutamente Dario Penne. Io sono felice di far parte di questo mondo, ma è Dario, io mi inchino. Per lui, insomma, io seguo tutti i giorni Futurama, quindi parlare per me con Bender Futurama, il mio Bender, che è cattivissimo, strano. E voi, persona buonissima, dici Rosario. Volevo chiedervi, molto spesso i doppiatori sono un po' bistrattati, diciamo, da questi ragazzi moderni. Brava. Che preferiscono seguire, ecco, per esempio, le serie televisive oppure i cartoni animati in genere, per quanto riguarda ciò che piace a me, in lingua originale, perché il doppiaggio italiano non gli piace. Tutti, poi certe volte devo dire che hanno ragione. Sì, esatto. Certe volte hanno ragione, molto, certe volte si corre troppo. Esatto, io sono un'appassionata e come me so che ce ne sono altri, però certo, so che ci sono tante persone che non amano il doppiaggio italiano, mentre non hanno sentito altre cose. Volevo sapere qual era il vostro pensiero a riguardo. Grazie Rosaria, ti faccio rispondere, ascoltaci per radio. No, purtroppo è vero che a volte, cioè, il doppiaggio, se è fatto bene, è positivo ed è una cosa molto bella. Certo che a volte purtroppo viene fatto male, questo è vero, succede. In quei casi capisco che a qualcuno non piaccia. Ma ad ogni modo sì, la parola bistrattati è abbastanza giusta, perché insomma adesso è da qualche anno che ci sono più gli estimatori adesso, sì, perché sì, capiscono adesso l'importanza, sì, soprattutto sì, in tutto il mondo si doppia, noi siamo i più bravi anche per merito di Pino, che ha inventato questo gran gala del doppiaggio, che insomma è una cosa molto bella. Sì, a livello internazionale vengono. Proprio era il 1971, qualcuno disse: lei è il più attore di tutti i doppiatori. Ah, che bello. Questa cosa l'ha detta Riccardo Cucciola. Me l'ha detta Riccardo Cucciola, sì, facendomi il più bel complimento che abbia mai ricevuto. È sì, bellissimo, sì. Durante Sacco e Vanzetti. Bene, volevo concludere questa parte con te con questo, dicendo anche un altro messaggio leggero, perché per te Penne è incanto, affabulazione, magia ed eros. La sua voce è un balsamo per l'anima e la mente. Allora, Silvia, a tra poco. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori, Franco Schipani, la pecora nera di Sara Tardelli e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Sanatomi. Ovviamente, il continuum temporale è stato interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultante in questa realtà alternativa. Che lingua è, Doc? Sì. Lascia che ti spieghi. Immagina che questa linea rappresenti il tempo. Qui c'è il presente, 1985, il futuro e il passato. Prima di questo punto nel tempo, da qualche parte nel passato, la linea del tempo è stata deviata in questa tangente, creando un 1985 alternativo. Alternativo per te, per me e Einstein, ma realtà per chiunque altro. Ritorno in trasmissione, ma soprattutto ritorno al futuro col grande Christopher Lloyd, doppiato magistralmente da Dario Penne qui al mio fianco già da un po'. Mi sono divertito come un pazzo a fare i ritorni al futuro, devo che dire. È una fatica assoluta quando si doppiano questi film, eh. Sì, però è di una bravura, è un pazzo scatenato Christopher Lloyd. Lui cominciò poi con qualcuno su un libro del cucolo, sì, sembra un pazzo vero, sì, sì. Che bella avventura anche questo. Altre cose, ricordatevi che il doppiatore è un doppio attore, deve reinterpretare l'attore attrice sullo schermo che ha recitato in altre lingue con intenzioni, gesti e sguardi. Non è facile. Se Nicola Procopio, tanto era proprio bella questa trasmissione, va bene, eccetera, eccetera. Ma grazie per tutta questa considerazione. Sì, bene, abbiamo una telefonata. Mi sembra che sia prima. Due telefonate. Beh, ce ne abbiamo. Eddie da Vicenza, prima. Buongiorno. Buongiorno, Eddie. Buongiorno, allora io volevo dire questo. Dimmi. Intanto, un signore anziano, qualche anno fa. Conosciuto casualmente, mi diceva che aveva fatto degli apprezzamenti sulla mia voce, vabbè, e diceva che bisognerebbe sempre innamorarsi di una dote, della donna che non invecchia nel tempo, e questa cosa qua mi aveva molto colpito, come possono essere altre qualità. E poi volevo dire questo: i doppiatori naturalmente fanno dei corsi di dizione, esercizi, eccetera, sono degli attori, loro, sì. Sì, nella loro vita privata, quando ad esempio, che ne so, si arrabbiano, sono tristi, non ci pensano. Hanno un'altra voce o sono sempre così? Bella questa domanda. È una domanda molto carina, ma non credo che la voce cambi. Non può cambiare la voce. Però tu pensa, se si arrabbia lui e ti dice un attimo, come Anthony Hopkins, il senso innocente, se non smetti voglio mangiarmi il tuo fegato con un buon Chianti. Oppure quell'altra battuta che era nell'altro film, in quello successivo, in Hannibal, che diceva a Giannini, ha detto: sto pensando seriamente di mangiare tua moglie. Grazie, Eddie, che sono andato. È vero, pensate pure il grande Amendola, mi diceva, mi raccontava Claudio, dice: io non sapevo se scappa o ride quando mi fate mestrillare, perché mi sembrava che stava a correre dietro Stallone o De Niro. Sì, da un momento all'altro. No, la voce non cambia, non credo che cambi. No. E c'è anche Roberto da Modena. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Roberto. La mia era una curiosità dettata dal fatto che il mio cervello si può nutrire soltanto di parole ben dette e dizione corretta, visto che quando si ascolta molta televisione in generale o si legge si vedono degli strafalcioni verosimili. Però la mia curiosità era proprio dovuta al fatto che mi capita in alcune occasioni di avere degli audiolibri. E mi chiedevo, ci sono doppiatori del vostro calibro che li interpretano? Perché sì, questo sì, mi sì. sarebbe ancora più importante per me, perché ascoltare la voce così è... Mi fa molto piacere che tu abbia fatto questa domanda, sì. perché è un percorso che si sta attuando in questi ultimi anni, anche qui in Italia, cominciò in America con grande successo, sì, perché sì, l'audiolibro ti fa compagnia, non riesci a leggere, ti metti in macchina esatto. e diventa evocativo. Certo. Sì, e Dario è uno dei protagonisti di questa collana. Libri vivi, non so se lo conosci, c'è, comunque c'è anche... Chiedetelo su nelle... Sì, sì. Ok. No, e mi permetto di... E c'è anche la Emmons, per essere, Emmons, per essere sì, democratici. Sì. Io ultimamente ho letto Il libro della giungla. Dario, tu cosa hai letto ultimamente? Che c'è anche una candidatura. Ah, dunque, premio. Io ho una nomination sia alla Voci nell'ombra, che quest'anno è a Savona, uh-huh. non più a Finale Ligure, e per il Pozzo e il Pendolo. E di Pooh. Di Edgar Allan Poe. Che meraviglia. Sì, ce sì, l'ho sì. anche letto da Quartiere De Angelis, sì, a casa. È una cosa antica. Dici, Roberto. Mi permetterò di salutarvi con un piccolo aneddoto che fa parte della mia carriera universitaria, del motivo per cui poi io ho sempre amato le parole dette come si deve. Acquistai un software di riconoscimento vocale per aiutarmi a redigere i miei appunti di università delle lezioni uh-huh. e durante la fase di addestramento si doveva leggere un brano. Bene, con la mia dizione modenese alla fine, quando io dicevo pizza, veniva scritto fuori pissa con due S e quindi ho detto no, non è possibile, anche la macchina mi sta uccidendo. E ogni tanto mi sforzo di fare qualche esercizio, perché insomma a me piace la parola corretta, tutto lui. E vi ringrazio della trasmissione e dell'opportunità che mi date di ascoltarvi. Grazie Roberto, grazie a te della tua attenzione. Beh, è bello sentire sì, molto. Queste cose. Beh, è divertente pure, è vero, perché tu parli con il tuo dialetto e ci certo. scrive il tuo dialetto. C'è anche adesso nei telefonini, devi stare attento. Sì, molto. Voglio mangiare una pizza, quello dice una pizza. No, vabbè, lasciamo stare. Senti, va bene, allora abbiamo avuto altri ringraziamenti per SMS. Vi ricordo anche i numeri della nostra voice box, dove potete lasciare i vostri messaggi in segreteria telefonica per tentare di venire ospiti qui a Radio 24, ma non solo, anche essere sottoposti il vostro provino a dei importanti direttori. Questo non significa promessa di lavoro ovviamente, ma la possibilità in più che c'è per giocare con noi da questo punto di vista. E proprio per questo io parlerei ancora tantissimo, però possiamo parlare ancora? Abbiamo il provino, sì, esatto, io in regia che ringrazio sempre Filippo, Alessia e quanto Alessandro, Damiano, cioè, sono tutti lì che mi guardano dall'altra parte. Vedo che, vedendoli qui, meno male che io leggo le labiali, perché sembra tutti un pesce di nome Wanda o Nemo, perché vedo le labbra muoversi certe volte e io leggo attraverso quelle, ringraziando il cielo, facendo questo di mestiere, mi sembra giusto capirli attraverso il movimento labiale. E allora, il secondo provino di oggi, che abbiamo ovviamente tirato fuori dalla nostra segreteria telefonica, ci ha raggiunto però a Milano, ed è Walter Morganella, che è italo argentino, vive a Como con il fratello, attualmente non sta lavorando, e questo mi dispiace ovviamente. Ha una passione smodata per la voce, in particolare per la voce radiofonica. In Argentina ha avuto alcune esperienze in radio, poi ha deciso di trasferirsi in Italia per cercare altre fortune. Bene, noi vedete, diamo spazio in questa trasmissione non soltanto ai professionisti, ma proprio all'iter che ha la voce, l'importanza che ha la voce quotidianamente. E lui, ovviamente non essendo un professionista, però ci ha lasciato un messaggio e io lo saluto. Walter, sei in collegamento da Radio 24 da Milano, se non sbaglio, vero? Sì, ciao Pino, e complimenti per la produzione del programma. Ogni programma è una lezione. Oddio, sembri Papa Francesco. Sì, fratelle, sorelle. Se alleggerisci leggermente, sì, è vero. Prova un po' a tirare un po' sulla voce. Adesso anche questo può essere una chiedo scusa, perché ho la gola alla miseria. Sì, tira un po' più su, fai finta di parlare con una persona al primo piano, la voce si alza naturalmente, prova un attimo a parlare in quel modo. Ehi, senti, ciao, questa Pino, maniera. Come mi senti adesso? Ecco, prova a parlare e dire: signori, fratelli, benvenuti in questa piazza. Prova. Sorelle. Vai. Fratelli. Lo vedi? Buonasera. Oh, e poi dire che questa trasmissione può non avere successo se il nostro primo cittadino religioso partecipa a Voice Anatomy. Bellissimo. Avete capito? Questo è stato anche un piccolo trucchetto per far capire alle persone, quello è portare la voce, si chiama, no? Perché se tu fai Mario, non ti sente, sì, se sta lontano, certo. Mario! Allora uno ti sente da quel punto di vista. Mario! Non c'è Mario, sta buono, guarda. Walter, hai la possibilità di stupire non solo le persone che ti stanno ascoltando, ma anche Dario, che ovviamente siamo con grande qui. Attenzione ti ascolterà. Che cosa ci leggi? Era un libro di lo scrittore si chiamava Julio Cortázar, conosciuto anche da voi. Il racconto si chiama Istruzioni per caricare l'orologio. Ah, che bello il titolo. Sì, sì, sì. Cortázar è bravissimo. Lo leggi in spagnolo e noi ti doppiamo? No, in italiano pure. No, lo so, era un gioco. Era una battuta. Senza vederti è difficile, insomma. E allora ti metteremo una musichetta di sottofondo e tu, io, un minuto, tutto per te. Vai. Pensa a questo. Quando ti regalano un orologio, ti regalano un piccolo inferno fiorito, una cella di rose, una gabbia d'aria. Devi stare sempre dipendendo dal momento esatto, guardando le vetrine, la TV, ascoltando la radio, avendo paura se ti cade per terra, se si rompe o se te lo rubano. Quando ti regalano l'orologio, tu sei il regalo dell'orologio. Ah, eccolo qua. Bene, Pino, io non sapevo che dovevo portare, l'ho detto a memoria adesso. Ma dai, sì, perché è venuto ancora più intenso. Bravo. Perché non si è capito. No, quelle pause erano belle. Non sapevo che dovevo portare il racconto. Ho tagliato qualche parola, però bravo. Ho cercato di darle un'idea. No, l'ha data, è vero Dario, cioè, vedi anche qui l'addizione, cioè tu non l'hai detta in un italiano corretto, perfetto, l'hai detto con un'intenzione, un colorito sudamericano, sì. Però funzionava. Come no, funzionava, sì, bravo. La voce un po' rotta in gola, sì. Che forse c'è un po' di mal di gola, ma vabbè, funziona, oh. Mica deve essere tutto, ehi, allora stasera, no, bisogna tuonare. Cosa fai nella vita, caro Walter? Io lavoravo come magazziniere così in fabbrica e qualche volta ho cercato di fare qualche provino mandando qualche demo a qualche radio così, e adesso sono disoccupato, purtroppo. Caro Walter, succede un po' troppo spesso questo periodo. Come mai stai tranquillo, non c'è la Carrà qui, non ti, come mai sei andato via dall'Argentina? Non ti ha chiamato lei sicuramente a Carramba, sei venuto da solo. No, e adesso Walter dall'Argentina è qui. È qui, perché mio papà era italiano, prima è arrivato mio fratello, gli è piaciuto. E poi ogni anno che passava mi diceva: vieni anche tu, Walter, a provarci per vedere. Io avevo più speranze della situazione in Argentina. Gli dicevo a mio fratello: no, aspetta un po', vediamo cosa succede. Magari il prossimo politico che arriva è veramente onesto. Eccola, un'altra bella avventura. Potete immaginare, non è stato così. E poi sono venuto qui per provarci. Vedete, siamo stati i primi a viaggiare noi, devo dire, sì. Siamo stati proprio i primi, abbiamo inventato anche questo e poi ci stupiamo di quello che sta anche succedendo. L'immigrazione, anche sì. Questo abbiamo inventato. Che cos'è che ti ha spinto sul percorso della voce? Che cosa ti ha affascinato di questo? Perché io ho capito qua la storia della radio. Nel 75 più o meno sono comparse le radio locali in Italia. Invece in Argentina è stato nell'85 e vabbè, quella folgorazione ha preso anche me. Senti Walter, sì. Rimani con noi, noi andiamo un attimo in pubblicità, sì. Per avventurarci nell'ultimo blocco di Voice Anatomy. Resta in linea, lo stesso dico al mio amico Dario Penne e lo dico anche a voi che ci state, eccoci, ascoltando affettuosamente. Radio 24 e Voice Anatomy tornano fra pochissimo, grazie. Anatomy. Bentornati signori all'ultimo momento insieme di questa bellissima avventura nel mondo della voce. Vicino a me c'è sempre il grande Dario Penne o tutti i suoi alias, da Michael Caine a Anthony Hopkins, eccetera, eccetera. Dall'altra parte Walter Morganella, che invece ha partecipato al nostro concorso di questa segreteria telefonica sempre aperta, che aspetta i vostri provini quotidianamente. Mi raccomando, il numero di telefono è 828 12 12 per lasciare il vostro provino e poi essere selezionati durante la settimana per poi partecipare. Allora Walter, sì, caro il mio amico dall'Argentina, sì, un abbraccio al maestro Dario e a te, no? Logicamente. Grazie, grazie, grazie. Che bello, sai che il sudamericano è bellissimo, più sì, dello spagnolo, è spagnolo sempre, sì, sì, sì, ma sì, sudamericano però, cioè... me l'ha insegnato mia moglie, che è anche esperta linguista, già esperta come moglie e quant'altro, come attrice, ma pure esperta linguista, e mi fa capire la differenza fra, a proposito di voce, lo spagnolo che è sta coscia, e sempre si metteva un nome da un momento all'altro. È più dolce l'argentino. Invece l'argentino, il sudamericano, e sta cosa è, sì, molto appunto, più... È vero. Infatti quando dobbiamo anche i film sudamericani, certo, c'ha, certo, un colore la voce, quando sono spagnoli. Verissimo. Ce n'è un altro, come sì, il francese, sì, sì, sempre sempre te sputano addosso. No, ho giusto un po', e noi sempre, no, te l'avevo detto, ma no, ma certo, ma no, ma Pino, no. Pino, penso, sì, pensa un po', un argentino doppiando un altro argentino sarebbe un colpo tremendo. Sì, può succedere, perché noi come no, ci capita, no, nei film cercare i madrelingua che parlano italiano, c'è, cioè, un grandissimo giapponese che doppia. A proposito, giapponese è terribile proprio. Giapponese, ragazzi, quando capita doppiare quelle anime o i manga oppure mamma un film mia, giapponese, è una cosa... Sì, sì, però è per voi è una prova di bravura. Sì, perché non sai, sì, cosa sta dicendo. Quella fa... E ha detto ti amo tantissimo, ma tu non te ne sei... Portami la camicia a lavare subito. Capito, sembra più sembra quello. Allora Walter, noi terremo conservato il tuo provino e sicuramente lo cercheremo di mandarlo ovunque, perché se servirà un italo argentino con grande, certo, passione della voce come ce l'hai tu e tanti altri, sicuramente sarà preso in considerazione. Va che bene, Dio ti ascolti, che Dio ti ascolti, Pino. Che Dio ti ascolti, mi sembra, dopo con la tua voce poi mi sembra una raccomandazione. va bene, grazie, no, a grazie, grazie Morganella, a te, un abbraccio alla tua fanal, maestro. E complimenti. Maestro, no, perché prego, mi chiamo in segno di cognome, solo per questo sono maestro. Complimenti a voi. Grazie Walter, un abbraccio caro. Buon e allora abbraccio. Abbiamo un'altra telefonata oggi, siete belli vispi, signori. Francesca Carla, e non sono due ovviamente, soltanto una, da Brugherio. Pronto, Francesca o Carla? Buongiorno, tutte e due. Mi hanno dato due nomi, sarà perché io sono una chiacchierona, parlo tanto per certo, due. Allora, abbiamo detto, la voce è donna, per cui... Sì, sì, allora io vi ringrazio molto per questa trasmissione, e Pino Insegno, lo conosco perché ho visto anche in televisione, sui giornali, e invece gli altri due doppiatori, no? Sì. E non ricordo di averli visti su nessun settimanale o cosa. Meglio, dipende quale settimanale. Io spero che li troveremo sul Sole 24 Ore. Ma sui settimanali vedete Dario Penne in costume da bagno l'estate. Non è un bello spettacolo. O in un talent, no, speriamo di no. Da quel punto di vista se ne parla. La gente ama tantissimo questo, cara Francesca Carla, e noi siamo già soddisfatti di come se ne parla, e questa trasmissione sta dando voce alla voce. E allora siamo contenti. Grazie Francesca, grazie davvero del tuo affetto. Posso dire una cosa? Dimmi. Ancora, certo. Ecco, io anche quando ero ragazzina che andavo al cinema e mi dicevano, i miei amici mi dicevano, ma guarda che non è la voce vera quella che tu senti, no? C'è un doppiatore. Io mi dicevo, ma quello lì è un grandissimo attore, come fa Brava. Uno che non è lì che recita parlare, immedesimarsi nei personaggi, dire delle cose così. Io ho sempre ammirato i doppiatori, vorrei fare la doppiatrice anch'io. Va bene, che carina che sei. Grazie, una voce particolare, grazie anche lei. Grazie Francesca, grazie davvero. Anche questa è stata una bella definizione. Bene, a questo punto noi stiamo per terminare. Voglio collegarmi con gli amici a Milano, con Carlo Genta, anche perché non so nessun risultato, Carlo. No, nemmeno io. Tu di che squadra sei, Dario? Si può dire? Inter, quest'anno finalmente lo posso dire a voce alta. Dire. Ha vinto l'Inter a mezzogiorno e mezza, sì, vero, sì, Carlo? Sì, sì. Ha vinto. Siamo ancora a punteggio pieno. A proposito di Argentina, ha segnato Icardi. So che hai parlato di Argentina. Sì, primo gol di Icardi. Icardi ha segnato. E il resto, dimmi un po' il resto. Che succede? Il che resto, succede? Guarda, Pino, stanno ancora giocando, per la verità. Ah, anzi, guarda, ti dico, è finita adesso Genoa-Juventus 0-2. Autorete del portiere alla mano, Gollonzo, classico Gollonzo per aprire al 37esimo, poi rigore di Pogba. Tutti vorranno sapere, c'era o non c'era, c'era. C'era. Fallo su Gheri. La Juventus sta tornando, la Juventus. In compenso ti farà piacere sapere che la Roma... Beh... 2 a 2 in casa con Sassuolo, come la vedi? No, non lo so, ma io non mi occupo di calcio. No, lo so perfettamente. Io non riesco a capire. Faccio un programma sulla voce per 2 ore e mezza e tu mi dai ste notizie. Fammi un bel Roma-Sassuolo 2 a 2. Roma-Sassuolo 2 a 2 in doppia Trieste, rimonta non pervenuto. Quelle cose Trieste ormai è sparita nel nulla, sembrava come l'ho detto, sai, le cose sta in serie D, poverazzi. Esatto, doppia rimonta, Totti col numero 300, tanti complimenti. Adesso aprirete gli scherzi, la goliardia che divide Roma e Lazio, bisogna essere anche onesti, adesso no, perché c'ho la radio, i tifosi mi conoscono e sanno perfettamente, infatti per strada vivendo a Roma tu sai che un laziale è come se vivesse durante, lo dico sempre in America, durante via Corvetta sei nero, per cui è una cosa particolare, però lo sanno e sono sempre onesto, perché la mia vittoria non è mai la sconfitta di un altro nella vita, a parte Roma Lazio ovviamente. Almeno due volte ipocrita. Se no sarei un falso ipocrita. Però poi dopo che succede? È successo che l'Inter abbiamo detto ha vinto, la Juventus ha vinto 2-0, ha ricominciato a correre in campionato, l'Atalanta vince questo derby. Sono contento per il mio amico Bollini e Reia. Sì, sono gli allenatori, sì, e Bollini è un grande amico, anche Reia. E l'Atalanta 21-0, segnato alla fine Morales, non ho visto neanche il gol perché stavo venendo qui in studio per parlare con te, dopo lo cerco. Vabbè Carlo, io ti saluto, ti faccio in bocca al lupo per il proseguo della trasmissione. Oggi non posso fermarmi oltre perché scappo per andare a Palermo di corsa. Buon però viaggio, ti ringrazio. Viaggio, Pino. Grazie, alla prossima. Sto morendo non so perché, a proposito di voce sta andando via. Ecco. Carlo, ciao, abbraccio agli altri e grazie a voi. Grazie a voi. Tutti come vedi. A dopo, e ringrazio anche l'amico Dario Penne che grazie si è fermato fino all'ultimo, grazie, tanto avremo modo ancora di sentirci, e grazie a voi anche oggi di averci seguito, grazie a tutta la redazione, grazie buonasera a tutti, grazie. Voice Anatomy torna domenica prossima a Radio 24.